stazione di polizia. Restare nelle case. Restare nelle case. Restare nelle case. È in corso una normale operazione di polizia. Restare nelle case. Carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen, carefully to these alarms that you listen. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. E buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata delle nostre dirette speciali che ogni sera alle 19 stiamo realizzando ininterrottamente dall'inizio della quarantena, dalle nostre molte tane sparse qua e là per la città e per i colli. Questa domenica però, a grande sorpresa, non sono solo, c'è infatti con me Pink e vediamo se ci sentiamo. Ciao Pink! Ciao a tutti e tutte, wow, okay. Grandi mezzi tecnologici oggi. Grandissimi mezzi tecnologici, grazie ai nostri potentissimi mezzi. Infatti siamo riusciti a creare questo ponte radio fra due diverse tane del Wombat. E infatti diamo oggi vita alla prima diretta Wombat realizzata con più voci ma da distante. Io sono davvero emozionatissimo, sì sì. Mamma mia, c'è la radio a distanza, cioè un po' mi viene da piangere, un po' sono contenta, non lo so. È un grande, sentimenti contrastanti. Un grande momento, un grande passo avanti, infatti occhio Radio Onda Rossa che arriviamo, sì. È vero, vi stiamo surclassando. Le piccole radio che così tentano l'assalto al cielo. E di cosa parleremo? Di cosa parleremo in questa domenica 26 aprile? Beh, prima di tutto parleremo del 25 aprile, di come è andato a Firenze, come è andato a Napoli e a Milano. E poi andremo a fondo di un paio di argomenti. Il primo è la questione nucleare, perché oggi è il 34esimo anniversario del disastro di Chernobyl. E infatti abbiamo intervistato chi è assai più competente di noi sull'argomento. Anzi, ci ha pensato Bricco Baldo e noi vi faremo ascoltare. E poi sì, chiaramente tutto ciò è difficilissimo perché non riusciamo, non essendo nello stesso posto, bisogna capire chi parla, chi non parla, addio, è difficile, però no, ce la faremo. E no, volevo dire che sì, ringraziamo tantissimo il Solerte e Bricco Baldo, che tra l'altro io vorrei dire, no, cioè vorrei fare così un gossip facendo finta di essere solo io e te. Cioè comunque, cioè lui riesce a fare delle cose incredibili con un telefono di quelli stupidi, uno stupido fonino. Cioè io vorrei che per una volta, invece di spenderti questi soldi in app del contact tracing, droni, roba del genere, cioè ci si prendesse atto che con la cara vecchia tecnologia vintage comunque si fanno un sacco di cose lo stesso, ecco. Non così. Solo, riesce a fare molte più cose francamente, ad esempio di me e col mio smart coso, e è anche un ottimo pretesto per sbolognare qualche intervista, però del resto... Non avrei potuto con questo mezzo. Sono contentissimo che ci sia Bricco che può anche per noi e realizza queste super interviste. Oggi ve ne manderemo una, appunto, fatta con un compagno romano molto esperto sulla questione nucleare. E poi abbiamo anche un secondo approfondimento che arriva invece dal Canton Ticino e ci parla di come la situazione emergenziale del coronavirus è stata gestita ed è gestita in Svizzera. E sì, per una volta, fra l'altro, sentiremo anche buona musica, grazie al fatto che la diretta di oggi sarà puntellata non dalle solite schifezze finto punk italiane che metto sempre io, bensì da una selezione musicale opera di Pink. Grazie Pink, per una volta tanto. Ora, Cioè, no, non vorrei dire che no, non è vero. Cioè, in effetti, io ho sempre molto da ridire sulla musica e mettono tutti gli altri tranne me stessa, quindi non dirò niente. Io poi non conosco praticamente niente di musica, quindi sarà una scopertissima anche per me, perché i Flogging Molly che ho scoperto a sorpresa ci saranno, però quelli li conoscevo, devo dire la verità. Dai, quelli caposaldo. Allora, ricordiamo anche come possono contattarci le persone, vuoi farlo tu? Allora, sì, ovviamente, posta wombat@insiberia.net, la nostra casella di posta, e poi il sito, probabilmente ci state già ascoltando da lì, visto che la radio in AM purtroppo ci ha avuto brutte vicende, attualmente, cioè, funziona, ma non si sente quello che dovrebbe sentirsi, e quindi probabilmente ci state ascoltando dal sito, quindi wombat.noblogs.org, e in home page sul sito trovate anche gli altri due modi di comunicare con noi, che sono il nostro meraviglioso interattivo pad, questo modernissimo, proprio innovazione con la I maiuscola, come internet e impresa, e lì, anzi, in realtà è un piacere veramente leggere sempre tutti i contributi dei nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che oltretutto ci aiutano anche con i problemi tecnici. Infatti ci hanno appena detto che ci sentono bene, ci fa tanto piacere questa cosa, grazie. Sì, sì. Meno male che ci siate voi. E poi niente, poi l'altro strumento meno usato, ma perché secondo me abbiamo un pubblico un po' timido, che è la messaggeria, cioè la messaggeria vocale al quale potete mandarci i vostri messaggi, perché tanto io lo so che siete tutti lì a mandarvi vocalini col vostro stupido smartphone, cioè, e non capisco perché non usate la nostra messaggeria mandandoceli a noi, che siamo sicuramente meglio, ecco. Soprattutto poi c'è un bottoncione rosso bellissimo da premere, che fa veramente voglia di essere cliccato, quindi vi invito anch'io a mandarci dei vocali dalla messaggeria del Wombat. Il link è sempre nella home del sito, da dove ci state ascoltando, evviva! Beh, ma allora prima di partire iniziamo subito con un pezzo, che ne dici? Dai, però io non so quale vuoi mettere, tu c'hai già in mente qualcosa? Allora, io ne ho messo uno in scaletta casualmente però, perché non lo conosco. Quindi... Allora dimmi il titolo e io ti dico il resto. Mi sembra un'ottima idea, manteniamola anche per il resto della puntata questa prassi, se funziona adesso. Allora, Noise in This World, con la mia bellissima pronuncia benissimo. Inglese. Benissimo, benissimo, no, nella mia scaletta preziosa ti posso confermare che è degli English Beat, quindi, quindi sì, vabbè, lo potevi leggere anche da solo il nome del gruppo, in effetti, non è che ci volevo io, però, vabbè, no, almeno è un po' divertente, ho cercato di fare una scaletta un po' piglia bene, perché sennò veramente ci tagliamo le vene. Ho giudicato, via, Noise in This World, ci risentiamo fra poco, iniziamo con i nostri approfondimenti, Wombat. Till I next to who I want, forever I want, whatever Jack not feels right, even in other blankets I want, forever I want, and just across the lines in your address book, sticks in wet and sticks in my mouth, make me feel as false as you look. You're so graceful, you're so hateful, I feel clumsy when La situazione resta sotto controllo. In alcune città è stata sospesa la circolazione di autobus e metro e ordinata la chiusura dei negozi. Sono misure che servono ad agevolare i controlli della polizia. Ehi, hey, lì! Hai sentito? Cos'è successo? Niente autobus, emergenza. Cosa vuol dire? Emergenza? Vuol dire quando nessuno può chiedere perché è emergenza. È chiaro, no? Ed eccoci qua di nuovo. Stiamo sentendo anche quella, l'avete sentito dall'inizio, già un paio di inframezzi che arrivano direttamente da un film, Pink? Sì, esatto. In realtà abbiamo messo aiuto, mi ero persa il pulsante. È difficilissimo, ecco, perché devo fare le cose con due mani e non... cioè, è una fatica. Però, insomma, sì... due ci sta, comunque. Sì, no, è vero, normalmente uno ha due mani, mi rendo conto. Però io le sto usando troppo, per fare troppe cose e troppo contemporanee. Esatto. Allora, no, dicevo, sì, è Musica per vecchi animali, che è un film dell'89... con cioè la regia è di Stefano Benni, da cui peraltro è tratto anche il libro Come ci spaventati i guerrieri, ve lo ricorderete. E, è un film che effettivamente è molto calzante, ecco, rispetto ai tempi in cui viviamo, perché boh, magari se non ve lo ricordate andate a riguardarvelo. È un film piuttosto malinconico che parla di un'emergenza, non meglio imprecisata, e questi personaggi strani ma molto simili a noi, perlomeno io mi ci rivedo molto, che vagano confusi nei meandri di questa emergenza, di questo stato di emergenza. Super consigli cinematografici per noi, infatti me lo guarderò anch'io stasera, che mi ricordo il libro ma il film non l'ho visto, e ottima occasione direi per farlo. Poi c'è Paolo Rossi, mamma mia, wow. Che bello, era tantissimo, non vedevo Paolo Rossi. Giovane, un giovanissimo Paolo Rossi c'era. Pischellissimo. Sì, poi c'è anche Dario Fo, insomma, molto bello. Eccoci allora sulla... andiamo con il primo degli approfondimenti di oggi e dai, vogliamo raccontarvi un po' della giornata di ieri, 25 aprile, festa della liberazione, come sapete tutti benissimo. Ecco, a Firenze, io direi sì, di iniziare un po' dalle nostre terre, a Firenze si sono svolte numerose commemorazioni di vario tipo, cioè ci sono stati degli omaggi con presenza fisica delle persone al monumento a Potente in piazza Santo Spirito, lo stesso è avvenuto alla lapide in piazza Puccini, a quella in via San Niccolò, oppure sulla Bolognese, alla tristemente famosa Villa Triste, scusate il gioco di parole, e in molti altri quartieri, fino a Sesto, a Scandicci. E insomma, diverse persone hanno voluto portare di persona i loro omaggi, e però lo hanno fatto con un grande senso di responsabilità. Erano infatti tutte queste persone dotate di guanti, mascherine, e a giudicare sia dai video sia dalle foto è stato rispettato con grande attenzione anche il distanziamento sociale. Ci sono anche stati numerosi manifesti affissi soprattutto dai vari gruppi di sostegno alimentare un po' in tutta la città. Erano manifesti con il fiore partigiano e sopra la scritta 25 aprile 2020, combatti la paura, vivi il tuo quartiere, distruggi il fascismo. E poi ancora abbiamo visto sventolare dai balconi molti striscioni, drappi, bandiere tricolore con la stella rossa al centro, e poi ancora video, fotografie diffuse, insomma, iosa. E sono state anche organizzate varie dirette sui social, da quelle di taglio, diciamo, più politico a quelle di taglio musicale o teatrale. Insomma, Firenze si è sicuramente fatta sentire ieri e non ha vissuto alcun problema con le forze del disordine. Ho imparato da Radio Blackout questa espressione, l'ho fatta mia. E però così non è stato a Milano e a Napoli. E infatti vogliamo andare a vedere un po' che cos'è successo in queste due città, direi, sì. A Napoli ieri mattina alcuni quartieri della città hanno visto degli striscioni comparire, sono stati affissi degli striscioni che legavano la resistenza al nazifascismo con le questioni di attualità, la richiesta di reddito, di servizi, anche di diritti sociali in generale. E, per l'esattezza però sono successi due problemi in due zone di Napoli, in particolare a Bagnoli un gruppo di manifestanti ieri è stato fermato dopo aver distribuito mascherine ed aver esposto uno striscione. Lo stesso è avvenuto a Piazza Municipio, dove altri tre sono stati fermati, che sono stati identificati e portati in questura per aver esposto uno striscione che rivendicava reddito, salario e tamponi per tutte e tutti. In entrambi i casi venivano rispettate e ricordate le misure di distanza, ecco sì, perché poi sappiamo che di certo l'ultima cosa che interessava i manifestanti era quella di mettere a rischio e in pericolo la popolazione. La polizia però ha deciso comunque di intervenire con forza, circondando le compagne e compagni, identificando le persone e portando in questura alcuni attivisti che si sono beccati, oltre che la sanzione economica prevista dal decreto, anche una denuncia per manifestazione non autorizzata. Tutto questo con un grande spiegamento di uomini e mezzi e con un'ostentazione di forza e di arroganza, come siamo stati del resto abituati negli ultimi giorni sempre di più, purtroppo, a vedere. Non diversa per molti aspetti, anzi direi anche peggiore, è stata ciò che è avvenuto ieri a Milano Nord, dove un gruppetto di persone che portavano dei fiori ai partigiani è stato circondato e picchiato in un modo brutale dalla polizia. Sì, ci sono infatti dei video, li si possono, uno, quello più interessante, credo si può trovare facilmente su Milano Today, è stato ripreso, fatto da un balcone, dura diversi minuti, si vede davvero come si sono svolte quei momenti concitati. E molto duro su questo fatto è stato il comunicato delle brigate volontarie per l'emergenza, che abbiamo fra l'altro avuto a questi microfoni a fine marzo, e che parlano di un atto criminoso e totalmente ingiustificato. E dicono infatti le brigate: è evidente che il ministro degli interni, il prefetto e il questore non sono lucidi né in grado di affrontare questa situazione. Sguinzagliare i bastonari in divisa contro tre persone che stanno passeggiando è un inequivocabile segno di crollo nervoso e psicologico. È inammissibile che coloro che in teoria devono garantire la sicurezza siano in realtà degli squilibrati violenti. Questo è il duro commento delle brigate, dicevamo, però per la cronaca dei fatti direi che ci possiamo invece affidare alla viva voce delle compagne che hanno vissuto questi momenti in prima persona, e quindi direi che senza indugio, senza altre introduzioni, lascerei direttamente la parola a loro, mandando questo audio che ci è stato inviato ieri, proprio nel mentre in cui tutto questo stava avvenendo. E beh, ascoltiamo. Ciao, siamo neanche una decina di abitanti del quartiere di Via Padova e dintorni. Abbiamo deciso ieri di andare a lasciare, di dividerci un po' le lapidi, e quelle più vicine a noi, di dividerci in gruppi nelle lapidi più vicine e di lasciare un drappo con scritto "Nella notte ci guidano le stelle" e di fianco attaccare un foglio con la storia del partigiano, del partigiano in questo caso. In più dovevamo lasciare una scritta, un foglio con scritto "Contro le guerre padrone ieri e oggi" fuori dal monumento di Don Orione a Cimiano, appunto per contrastare la guerra in generale. Questa cosa siamo riusciti a farla a Gorla, dove c'è la statua che ricorda i bambini uccisi da una bomba degli americani verso la fine della seconda guerra mondiale. Lì li abbiamo ricordati, abbiamo contrastato la guerra, ci hanno applaudito, abbiamo cantato "Fischi al vento", un po' stonati, e poi siamo andati, stavamo dirigendoci verso via Perticari, la seconda lapide, e lì una volante della polizia ci ha iniziato a seguire, intimidando un attimino. Noi abbiamo detto "andiamo avanti, comunque siamo neanche 10, abbiamo le distanze, alcune in bici, c'era uno di noi col passeggino". E non andiamo avanti. Poi a un certo punto ci tagliano la strada, ci fermano, ci buttano a terra, ci menano, ci hanno rotto il megafono, insomma, successe, ci volevano, hanno preso una ragazza di noi, fino a che a un certo punto sono arrivate altri compagni da tutto il quartiere e siamo riusciti ad andare via. Abbiamo ricordato il partigiano Gobbi che sta in via Celentano, abbiamo letto la sua storia breve. Stavamo tornando, ognuno a casa propria, molti in transit, molti di qua, molti di là, e quando qui, dove siamo, in Don Orione, con l'incrocio con Ricciardi, ci hanno di nuovo caricato e uno hanno menato alcuni di noi, uno ha provato a liberarsi ed è stato portato via, a identificare, dicono. Adesso noi siamo qua, siamo molto preoccupati perché alcune persone, alcuni abitanti ci stanno portando la solidarietà, altri no, e siamo molto preoccupati, almeno io personalmente, perché non voglio che si abituino a questo, ho paura che ci si abitua a questo stato di controllo quasi fascista, dove non si riesce più ad andare in giro. Abbiamo una testa, usiamola, sappiamo prenderci cura di noi stessi, cerchiamo di prenderci cura di noi stessi e degli altri. Non, come dice una di noi, forse è più pericoloso andare a rinchiudersi in un supermercato tutti i giorni piuttosto che mettere un drappo a una lapide di un partigiano il 25 aprile. Grazie. Aspettiamo qua, speriamo che Andrea venga libero subito. Sì, Andrea libero subito, grazie. Eccoci, rientriamo soltanto per finire magari questo primo momento dicendo, hai ragione Pink, comunque è difficilissimo fare tutto con due mani. Vero, non sono io. No, sottoscrivo, mi hanno preso in giro, ma come... Su quanto un audio su questo fatto che è stato pubblicato poco dopo a firma antifascisti e antifasciste del quartiere, è un comunicato che è stato divulgato con preghiera di massima diffusione proprio su questi fatti, che noi magari raccogliamo e velocemente andiamo a leggere prima di uno stacchetto musicale. E, sì, scrivono infatti i compagni: siamo un gruppo di antifascisti del quartiere, vorremmo spendere due parole su quanto accaduto. Mentre alcuni di noi portavano dei fiori alle lapide dei partigiani del quartiere, rispettando le norme sanitarie, mascherine a distanza, in via Dogali siamo stati accerchiati e caricati senza alcun motivo. Fra di noi c'era un padre con una bambina piccola e una persona anziana. Dopo che la polizia ha detto che ci si poteva allontanare, siamo andati verso la lapide in via Celentano per concludere il giro. Una volta deposti i fiori, stavamo andandocene via. A quel punto siamo stati nuovamente aggrediti, ancora senza motivo, da parte delle forze dell'ordine che hanno preso uno dei nostri compagni, di cui non abbiamo ancora notizie. Altri compagni e persone del quartiere sono accorsi a portare solidarietà. In risposta è stata chiamata la celere. Dopo un'ora di accerchiamento e tensione siamo riusciti ad andarcene. Situazioni simili sono accadute anche in altre zone della città. I fatti di oggi dimostrano come qualsiasi forma di dissenso venga repressa con la scusa dell'emergenza sanitaria, persino rivendicare la lotta partigiana contro il nazifascismo. La reazione spropositata da parte delle forze dell'ordine in questo periodo è un'evidenza della loro volontà di stringere sempre più il controllo e limitare la libertà, accusando persone singole per non assumersi le loro responsabilità riguardo a questo disastro sanitario. In un momento in cui il governo programma quando riaprire le aziende, quando mandarci a lavorare, noi dobbiamo rivendicare la nostra libertà di autodeterminarci e di vivere la città e gli spazi, incluso il commemorare chi è morto per questa libertà. Antifascisti del quartiere. Ecco, queste sono le notizie che ci arrivano da Milano. Poi abbiamo qualcosa di un po' più leggero invece dopo da dare sempre sul 25 aprile. Ma se Pink sei d'accordo, anche perché sto straparlando io, possiamo mandare, che ne dici, una canzone o vogliamo andare avanti lancia in resta? Ma no, forse dai, mettiamo un po' di musichine, tanto io non le sento, cioè, perché l'altra cosa che non abbiamo detto è che io praticamente sento solo la voce dell'altro conduttore, ma purtroppo non sento la musica, quindi voi sballettate con la musichetta, ma io tanto non sento nulla, sento dei grandi silenzi, però almeno voi che potete, sì, forse dai, un po' di musica ci sta. E allora, vediamo un po' che cosa abbiamo... Sì, Radio Verità, ci sto mettendo, non ero preparatissimo, in verità, speravo mi dicesse forse di no. Eccola lì. Scelgo io? a caso. Ma oppure... allora, se vuoi qualcosa, dimmi come vuoi, qualcosa di allegro? Qualcosa sì, rimaniamo di... su, sì. Tristissimo? Sì. No, tristissimo no. Tristissimo non ancora, più tardi. Ok, allora dai, metti gli Against Me, che a me mi piacciono tanto. No, non li trovi? Sì che ce l'abbiamo, gli Against Me, The Politics of Starving, no eh? Sì che ce no, li abbiamo, come no, eccoli lì, avanti, viva. Meno male. Eccoci di nuovo, intanto scusateci ogni tanto questi momenti di silenzio, di disagio sonoro, è perché siamo fuori dalla nostra comfort zone, stiamo provando infatti questa prima diretta a più voci e dai, comunque dignitosa fino adesso, almeno speriamo, fateci sapere se la pensate diversamente così stacchiamo tutto nel caso che no. Però prima direi di passare al nuovo tema, un audio interessante, molto interessante, anzi molto divertente anche, che ci è stato mandato ieri. È una poesia in ottava rima sul 25 aprile. L'ottava rima è il metodo, lo sapete, no? Di composizione toscana, otto versi, endecasillabi, A, B, A, B, A, B, C, C, le rime. che ci è stata mandata, quelle cantilenate, ma ora lo sentite così capite meglio che a spiegarlo in questo modo, che ci è stata mandata da un compagno, Pietro, di Genuino Clandestino. È stata scritta e cantata da lui, ascoltiamo la sua voce, via, senza indugi, subito. Provo a cantare l'ottava per il 25 aprile, vediamo. Povera Italia di sogni distrutti, losche figure vi prendo un potere, come una nave in balia dei flutti, la giusta rotta non la sai tenere. Eppur ne è già passati tempi brutti, quando imperavan le camicie nere, salvarono il tuo onore i partigiani, macchiandosi di sangue corpo e mani. Adesso vivi tempi alquanto strani, e sono ben confuse le tue genti, dai piemontesi fino ai siciliani, non c'è regione dove star contenti. Si son perduti quei principi sani, che nacquero dai propri combattenti, forieri di valore e di sapienza, capaci d'arginar la decadenza. Della cultura è pregna la tua essenza, che fu premessa della tua creazione, si fatta sei che non puoi starne senza, come la barca priva del timone. La tua figura perde consistenza, e i cittadini vanno in confusione, si mettono a latrare come cani, dimenticando d'essere italiani. Tutti quei morti rischiano d'essere vani, che si immolarono nella tua visione, se prevarrà le idee di quei villani, che sono promotor di divisione. S'addenserà le nubi sul domani, se non si troverà la soluzione, che assume in buone menti il giusto ruolo di indirizzare i figli del tuo suolo. Avanzeremo allora in grande stuolo, sbandiereremo la nostra appartenenza e lasceremo questo brutto molo con superiore presa di coscienza. Potremo un giorno ancora spiccare il volo, trovando nuovo ogni spirito e potenza. Con forte e pur pacifica rivolta faremo nascere l'Italia un'altra volta. Evviva, grazie a Pietro, che bello. Beh, ma visto che ci siamo, infine io farei un breve accenno, un brevissimo accenno alla lettera che è stata scritta nei giorni scorsi e che in queste ore, in questi giorni, sta appunto girando sulle pagine virtuali, nelle varie mailing list. È una lettera firmata dall'associazione Oltrarno, che parla di come già da 3 settimane quella comunità contadina che da 2 anni organizza il mercato in Piazza Tasso, a quella comunità non venga concesso di portare i loro prodotti genuini, per l'appunto, in piazza, nonostante poi i piani di sicurezza che avevano già inviato al comune 2 settimane fa, e fra l'altro nonostante lo stentatissimo impegno a sostenere la salute di tutte e di tutti. Di fronte a questo, niente, viene chiesto di sostenere loro, il quartiere di San Frediano, sottoscrivendo una lettera e inviandola al sindaco, all'assessore Gianassi e al presidente del quartiere 1. Ci sono i link a questi indirizzi mail, c'è per intero la lettera, sta girando, magari vi è già arrivata, e se non è così la potete senz'altro trovare in molti posti, fra cui la pagina Facebook della comunità di resistenza contadina Jérôme Larons, oppure quella di Mondeggi Bene Comune. Ci associamo al massimo a questa richiesta e rilanciamo anche noi questa loro lettera. Intanto Pink e noi stiamo provando, vero, a spippolare un po' con i nostri aggeggioni tecnologici, perché ci stanno mandando alcuni contributi che non riusciamo a rimandare a nostra volta. Però sì, fra l'altro non ci stanno arrivando, e quindi usate meglio questa messaggeria, perché secondo me l'avete registrati ma non mandati. Ci scrivono adesso che dice che in realtà li hanno caricati, ma non fa nulla e ci mandano cuori. Allora con cuori rispondiamo e vediamo se dopo la canzone che stiamo per mandare forse ce la facciamo, l'ultimo tentativo. Ah vabbè, sì, se la buttano sui cuori va bene, dai, perdoniamo tutto. E allora, che ne dici, canzoncina e poi andiamo avanti con gli argomenti di approfondimento, insomma, andiamo con la questione nucleare. Sì, tra l'altro per chiudere al volo sulla questione, invece faccio uno zompo all'indietro perché appunto mi ero distratta a fare altre cose. Sulla questione 25 aprile, io non so te, però visto che siamo in due e possiamo finalmente chiacchierare e non siamo da soli a condurre le dirette, cioè a me è sembrato molto molto interessante che rispetto agli altri anni, che un po' il ricordo del 25 aprile era almeno a livello di massa e di mainstream un po' confinato nei salotti e nelle celebrazioni un po' ufficiali, e a parte quando ce lo siamo ripreso, ovviamente, che invece aveva già un altro tono, però diciamo che a livello più quotidiano, più nelle grandi case, arrivava attraverso le televisioni, attraverso il Presidente della Repubblica che diceva le sue tre cazzate e grandi fasci tricolori, eccetera. E secondo me è stato interessante vedere come quest'anno forse invece sia stato ricordato in maniera molto più capillare, cioè non so se è sembrato anche a te, purtroppo non uscendo di casa è difficile avere una percezione magari falsata la mia, però dai racconti, da quello che un po' mi hanno raccontato persone molto diverse tra loro, fra l'altro, mi è sembrato un pochino che sia entrato di più nelle case delle persone, per l'appunto, e che un po' a livello individuale se lo siano ripreso un po' tutti e tutte questo 25 aprile, che sia stato sentito in maniera molto più profonda forse rispetto agli altri anni. Mi è sembrato anche a me, davvero sì, mi sono arrivati infatti non solo sui social ma tramite mail con condivisione di foto e messaggi davvero contributi disparati, anche da persone che storicamente, fra l'altro, non avevo visto né festeggiare né commemorare in alcun modo, invece sì, anche alcuni compagni che vivono fuori da Firenze hanno raccontato di averlo seguito attraverso i social, le dirette, con le telefonate alle varie persone per chiedere come stava andando, ci hanno anche raccontato infatti di pianti, di commozione, e beh sì, decisamente sì, capillare, variegato, è stato molto sentito, sarà senz'altro complice il periodo di reclusione forzata che stiamo vivendo, però non è mancato questa dimensione, sono d'accordo, mi ha fatto anche a me francamente molto piacere, e devo dire la verità, la lacrimuccia anche a me ieri mi è scesa, la commozione per questa giornata bellissima. Oh, meno male l'hai detto te, perché sennò facevo la figura della solita romantica. Però sì, anche perché effettivamente, cioè non lo so, poi sì, io sono una persona romantica, lo ammetto, però il vedere, per esempio, cantare da Bella Ciao dai balconi dei quartieri un po' tutte le persone affacciate è una roba che insomma un po' ti scuote, anche perché il 25 aprile, anche organizzato da noi, non aveva quello stesso livello di capillarità, di insomma di coralità anche, che invece ha avuto quest'anno. E ti voglio dire che qua nel quartiere dove vivo io, che non è esattamente in città, non si erano ancora sentite musiche dall'inizio della quarantena, non si era sentito nessuno suonare, cantare, mettere musica dai balconi, e invece ieri sì, le canzoni partigiane sono andate dalla mattina da più case, ho visto persone passare e applaudire, è stato davvero davvero bello anche questo piccolo momento di quartiere, insomma. Speriamo di ricordarcelo a pandemia finita, ecco. E nemmeno solo il 25 aprile, sicuramente, sì, speriamo davvero di ricordarcelo. Peraltro. Quindi diamo una canzone? Ah, ti voglio dire più che quando c'è del silenzio ogni tanto faccio questo giochino che mi piace, che provo a far salire un pochino il volume della base e poi lo rimando giù per cercare dinamicità. Però non lo faccio con la solita rondella. E lo faccio invece con la barra del volume, quindi non viene tanto bello, però ci insisto imperterrito a provare, capito? Tipo... Ah, quindi non ci sono dei grandi silenzi. No, in realtà sto provando a fare salire in quei momenti un po' la musica, così brio, pimp, circa. Come siete fornati voi che avete la musica? Sono i Clash, fra l'altro, il sottofondo, anche se stanno finendo, quindi forse è davvero davvero il momento di una nuova canzone. che mandiamo? Va bene, ma la mandiamo la Caterina, visto sì. Che siamo così in fase di romanticheria, Caterina Bueno, visto che parliamo anche di Firenze e di quartieri, ecco, lei ci stava proprio dentro. Evviva. Quindi Caterina Bueno è storia del 107. Caro padre, ti scrivo piangendo questi righi per me dolorosi e che mi restano ma tanto ingollosi e nel vedermi trattare così e scrivendo la mano mi trema e di tutto ti faccio palese e m'hanno tolto la veste borghese e m'hanno tolto la mia gioventù. Caro padre, che brutti momenti e qui non contano né pugni né schiaffi. E disse il guardia, levate i baffi, io l'avrei presa la spina nel cuore. E la mattina del 20 di marzo, il guardiano mi venne a vedere e con sé ce l'aveva i barbiere. Una scranna per farmi sedere, con cattive maniere mi prese, il rasoio un l'aveva perfetto e mi raschiava, parevo un capretto e mi aveva fini, li vidi andar giù. Quando poi egli ebban fatto tutto, il guardiano m'accennò con un dito e disse questo è il vostro vestito e nel vederlo mi fece tremare. Questo numero che oggi indossate cancella il nome casato, 107 sarete chiamato e a Ridolfo Foscati mai più, 107 sarete chiamato e a Ridolfo Foscati mai più. E qui non si passa, Giovanotti. Scusi, perché? Che cosa è successo, signore graduato? Emergenza. Emergenza? Cosa emerge? Emergenza! Lo dico io. Emergenza. Sì, vabbè, emergenza, Cecilia. Bisogna vedere cosa intende lei per emergenza. Terremoto, maremoto, fiumimoto, esplosione atomica russa, americana nostrana, esplosione chimica, pesticida, cloridrica, retata, colpo di stato, morbillo. Cosa? Ancora una citazione dal film adattissima a introdurci al nuovo tema. Infatti, no, ma prima Pink, visto che ci scrivono intanto che si sente bene, grandi, grazie, ci fa molto piacere, e anche un bel bravissima Caterina ci scrivono, e io devo dire la verità, non l'avevo vista. Devo dire la verità, Caterina Bueno l'ho conosciuta da Pink e dalle sue trasmissioni già da un paio d'anni. Non la conoscevo prima, è stato merito di Radio Wombat e proprio di Pink per me la scoprire Caterina Bueno, sì sì. Grande onore farti scoprire Caterina Bueno. Sono andato, ti dirò davvero, anzi, a rivedermi alcuni concerti, mi sa, ora forse dico una sciocchezza, ma mi pare nel Mugello, forse a Borgo San Lorenzo, uno molto grande in teatro verso la fine della carriera. Comunque, insomma, ho anche indagato, anche perché la ricerca di suoni popolari, di quelle canzoni quasi dimenticate come quella che abbiamo invece sentito, mi appassiona tanto. Abbiamo, tra l'altro, giusto così, chi ha ascoltato Radio Contado l'ha sentita anche rifare sempre la storia del 107 proprio live dai compagni di Radio Contado. Sì, Caterina Buono era un po' la nostra Alan Lomax, secondo me, cioè era un po' quella che ha portato avanti, beh, non solo lei, però insomma è stato un pilastro dell'etnomusicologia, insomma, dell'antropologia musicale anche, potremmo chiamarla così, e, con una, tra l'altro una voce bellissima e roca, stupenda, quindi al di là della ricerca anche proprio come cantante era meravigliosa, secondo me. Allora, no, stavo per mettere in verità la lunga intervista che poi abbiamo diviso in alcune parti, la inframmezziamo con alcune canzoni realizzate da Bricco Baldo, ma prima, se vogliamo mantenerci un attimo leggeri, noi abbiamo anche un contributo audio, che ne dici? Aspetta, chiedo il permesso però, perché qua è un momento un po' delicato. Chiedo il permesso. Se si può. Sì, io ti concedo il permesso, cioè, figurati. Anche perché in realtà la regia ce l'hai te, cioè io sono, cioè, ti faccio da spalla, da co-conduttrice, ma in realtà c'hai i comandi assolutamente in mano te. Va bene, ma non puoi scappare. Proviamoci allora, potrebbe essere finalmente l'ultima volta che sentiamo la voce di Antonio Probo, che invece da 6 domeniche ogni domenica imperterrito ci dà la sua rassegna stampa. Sapeva che oggi avremmo parlato di Chernobyl e dai, introduciamolo così il tema, ascoltiamo Quali follie ci porta oggi, via. Vai. Vai. Buonissima, gradevolissima mela a tutti i wombattini che ci seguono da casa, Antonio Probo alla rassegna stampica della domenica, consueta martellata sulle palle la domenica, ecco. Siamo qui un po', questa obiettivamente una rassegna stampa un po' più mesta del solito, perché siamo qui a commemorare questo tragico evento del passato, oggi 26 aprile, e quindi io direi iniziamo subito, lanciamoci subito a bomba dentro questa rassegna stampica. Quindi ecco, notizia numero uno dal nostro prediletto Corriere della Cheta, che titola oggi 26 aprile e come ogni 26 aprile il nostro accorato ricordo va a quel giorno sciagurato di tanti anni fa. Era infatti il 26 aprile 1970 che nasceva Melania Trump. Ecco, quindi sciagurato giorno, ecco, che commemoriamo, ma comunque noi siamo qui, siamo pronti ad andare avanti a bomba verso la seconda notizia. Quindi ecco, eccolo, cartaceità tipica del verso del calzino, che non si è mai capito qual è esattamente, ma ecco, non perdiamoci in chiacchiere. Il verso del calzino: ci sono ferite che non si rimarginano nemmeno dopo 20 anni, ma noi italiani d'altronde lo sappiamo bene. Brucia ancora quel rigore di Baggio a USA 94. Quindi appunto noi commemoriamo, tristi, da italiani. Proseguiamo, terza notizia di questa trilogia, non è l'ultima, però comunque trilogia, è da La Nazione, che è un giornale che non ha bisogno di essere parodizzato nel titolo, in quanto è parodizzato già all'interno del giornale. Ecco, La Nazione nel 2019 è uscita negli USA, Stati Uniti d'America, per chi non conoscesse il tedesco, la serie Chernobyl della HBO, in cui si può notare come i russi parlino un inglese ineccepibile. E quindi è appunto questa notizia, ecco, di colore. Cerchiamo, ecco, un attimo di drammatizzare, laterizzare un po' l'informazione. E quarta notizia di questa trilogia, da Contopiano, il favoloso mondo dell'internet, che sicuramente conoscete grazie proprio per Pornhub o altri siti di intrattenimento. Ecco, Contopiano, l'esplosione di Chernobyl ha provocato danni in un'area vastissima, addirittura anche in Italia, dicono gli esperti. Ecco, spiegato Maurizio Gasparri. Quindi, appunto, salutiamo tra l'altro Mauri, io avrei finito, ecco, un'ultimissima chicca dal sito che spulciavo ogni tanto, ecco, che è la Caccademia della Crusca. Smentita ufficiale la Caccademia: Chernobyl non è anagramma di Bill Cosby. Ecco, perché sono state voci al riguardo. E niente, quindi da Antonio Probil è tutto. Buona giornata, vi saluto. Va bene, dopo tutto ci sono dei picche. Ci sono dei momenti finché in cui, dopo tutto, non mi dispiace che tu non possa sentire quello che mando. Sì. Sì, se non fosse che tanto l'ho sentita già ieri, quindi non mi sono salvata. Tipo, questo è stato uno di quei momenti in cui ho alzato la musica. Vabbè, sì, questo momento di silenzio. Che cosa combiniamo adesso? Allora, entriamo nel vivo un po' della diretta, anche perché, cioè, non che finora abbiamo tergiversato, però quello di cui volevamo parlarvi oggi era un'altra ricorrenza, oltre a quella del 25 aprile, che è la ricorrenza del 26 aprile, perché ricorderete, nel 1986 si consumò la tragedia di Chernobyl, e quindi, insomma, ricorrono 34 anni precisi, e abbiamo considerato importante parlarne, per varie ragioni, tra l'altro, non solo per, come dire, un'affezione alle ricorrenze, quasi macabro potrebbe sembrare, ma perché da una parte ci sono stati, forse avrete visto, avrete seguito, anche se chiaramente i giornali e i media mainstream soprattutto in questo momento sono completamente assorbiti dal coronavirus, quindi in realtà non si parla di molto d'altro, però avrete forse visto i vari incendi che sono in atto dall'inizio di aprile nella regione intorno, non soltanto, poi insomma approfondiremo molto molto bene attraverso questa intervista che seguirà, però insomma nella regione limitrofa e molto vicina anche all'area di Chernobyl, incendi pare di natura dolosa, e su cui purtroppo abbiamo poche informazioni in realtà, e ovviamente su questi incendi ci sono in primis preoccupazioni perché possano diffondersi e possano ovviamente fare i danni che un qualsiasi incendio molto grosso può fare, oltretutto le nubi, anche soltanto nubi derivate da questi larghi incendi stanno già sorvolando Kiev e l'Ucraina e non solo, si stanno spingendo ovviamente nel resto d'Europa, ma anche di questo insomma parleremo dopo. E ovviamente ci sono anche delle preoccupazioni per la salute dal punto di vista di radiazioni, perché chiaramente stiamo parlando di un'area che, come vi potete immaginare, ecco, non è un'area qualunque, ma è il rischio appunto che si possano diffondere nell'area ulteriormente radiazioni nell'atmosfera, insomma, chiaramente è un rischio che temiamo un po' tutti. Di questo parleremo con un redattore di Radio Onda Rossa che da anni si occupa di nucleare. Tra l'altro la sua è un'intervista, un contributo molto chiaro e molto importante che abbiamo cercato di sfruttare, diciamo così, non soltanto nella sua competenza, perché è una persona che ha lavorato come ingegnere dentro l'Enel e fra l'altro è stato il primo e credo, non vorrei sbagliare, ma penso unico obiettore di coscienza all'indomani del disastro di Chernobyl, insomma, e quindi gli abbiamo chiesto un parere innanzitutto come persona competente, tra l'altro da un punto di vista anche tecnico per certi aspetti almeno, e insomma come persona che si ricordava, insomma, che si ricorda bene quel periodo e cosa successe, persona che adesso magari ci sa fornire delle indicazioni per leggere quello che sta succedendo, appunto le ultimi avvenimenti, quindi questi incendi, come reperire anche delle informazioni un po' migliori di quelle che ci vengono date dai giornali, che ovviamente sono pietose generalmente, e però gli abbiamo anche chiesto, ed era un aspetto che ci interessava moltissimo venisse fuori, di raccontarci un pochino quelli che furono i movimenti antinucleari sia prima di Chernobyl in realtà, e insomma nel suo racconto viene fuori molto bene ed sarebbe interessante approfondirlo ulteriormente, spero lo faremo poi in realtà da questi microfoni magari più in là. Che insomma movimenti antinucleari importantissimi non solo in Italia ma in Europa, coordinati peraltro, era un'importante occasione anche di coordinamento delle lotte a livello internazionale europeo, e quindi ci ha raccontato un po' di questi movimenti e ci ha raccontato anche di cosa successe all'indomani invece proprio di Chernobyl, e come sappiamo la situazione che ne derivò portò poi al referendum sul nucleare l'anno dopo in Italia, referendum vinto e che portò quindi alla scelta antinucleare in Italia, una scelta importantissima, tra l'altro confermata poi nel secondo referendum del 2011, quindi insomma evidentemente per una volta gli italiani e le italiane ci avevano le idee abbastanza chiare in merito, e quindi è stato interessante appunto provare a anche fra l'altro trarre un po' un parallelo dalla situazione del tempo, perché chiaramente adesso ci stiamo trovando in un'emergenza, chiamiamola così, di fatto lo è, ovviamente diversa per tanti aspetti. Eppure il modo di reagire e non solo delle singole persone ma anche dei movimenti e insomma la lettura che stiamo dando e che proviamo a dare dell'esistente e anche di quello che sta succedendo in questo momento è in qualche modo forse paragonabile al tempo, perché volendo forse, se riusciamo insomma, quantomeno si potrebbe provare a far sì che certi errori che conclamati che adesso con questa situazione in cui ci troviamo adesso sono venuti a galla nella loro distruttività enorme, ecco, magari potremmo provare da domani a metterci una pietra sopra e provare a superarli per davvero. Ora, chiaramente è un parallelo volendo un po' forzato, perché il contesto era diverso, la situazione era diversa e tante diversità, insomma, c'erano. Però fa bene ogni tanto parlare di una lotta che abbiamo vinto, purtroppo almeno in parte, perché poi come giustamente il buon Briccobaldo chiede all'intervistato nel corso dell'intervista verso la fine, poi in realtà vediamo che la lotta purtroppo contro il nucleare è tutt'altro che finita, ci sono ancora fronti ben aperti e ferite ben aperte, e quindi in realtà, insomma, è, diciamo, ci mostra una via questa storia, che però poi dobbiamo essere in grado evidentemente di raccogliere e di continuare. Quindi non lo so, io farei sentire questa intervista, un'intervista molto corposa, e per questo motivo l'abbiamo divisa in tre parti, non tanto perché per la sua lunghezza, ma perché ci tenevamo che tutte e tre queste parti ricevessero attenzione, quindi abbiamo pensato appunto di dividerla in modo da darvi un po' di respiro e permettervi di ascoltarla con più attenzione. E non lo so, hai ad aggiungere altro? Io chiaramente sono in difficoltà nel sentire sempre un po' a pezzi. No, solo per sottoscrivere alla grande sia il paragone sia anche la densità davvero di questa intervista, di attualità, di storia, parla, è veramente veramente interessante, ho avuto occasione di ascoltarla e quindi sottoscrivo ogni parola, anzi non vedo l'ora di riascoltarmela e direi di iniziare subito. Bene, benissimo, a tra poco. Allora, siamo al telefono con un redattore di Radio Onda Rossa, ex dipendente dell'Enel, da sempre attivo nelle lotte antinucleari. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, ci troviamo a parlare del tema in occasione dell'anniversario dell'esplosione, della tragedia di Chernobyl. E fra l'altro tornate fuori con i recenti incendi che stanno accerchiando proprio la zona della centrale. Molto difficile avere delle informazioni a riguardo, quindi tendenzialmente chiediamo a te sia le fonti, sia dove poter appunto reperire informazioni, sia anche proprio che cosa sta succedendo, perché le notizie che arrivano sono molto vaghe, si parla di questi incendi di origine dolosa che si avvicinano molto, così come si parla di zone limitrofe alla centrale ancora abitate, quindi probabilmente sei più informato di noi e ci puoi spiegare meglio. Premetto che io seguo costantemente non solo la situazione di Chernobyl, che è ormai una situazione di memoria più che di preoccupazione immediata, quindi il seguito è seguire Chernobyl oggi vuol dire seguire le conseguenze di quello che è successo ormai 34 anni fa, quindi è un bel lasso di tempo, e seguo generalmente tutto quello che accade, insomma, nel mondo nucleare. In questa circostanza devo dire che è difficile separare la verità dalla disinformazione, almeno per quanto riguarda la natura degli incendi, l'estensione degli incendi e la minaccia effettiva al sito della centrale nucleare. E per quello, anche facendo uno sforzo con Google Maps, con quello che è stato pubblicato in rete, con mappe varie di diversa fonte che si trovano, e anche leggendo più che letteratura scientifica, perché nessuno sostanzialmente, devo dire, si è pronunciato degli organismi internazionali di un certo peso, salvo l'IRSN, che è l'Istituto di Protezione Nucleare francese, che quindi per chi vuole avere qualche informazione diretta, se non altro sulla contaminazione che può essersi messa in circolazione attraverso questi incendi, la può trovare lì. L'IRSN normalmente è un sito, è una struttura abbastanza affidabile, non nasconde, non è usa nascondere anche per quando succedono cose sul suolo francese, come stanno le cose, magari è avara di notizie in certe circostanze, ma quelle che dà sono attendibili. Detto questo, che cosa ho capito io di questa situazione? Intanto vorrei allontanare una preoccupazione, se così posso dire, e cioè che il sito dell'impianto non è minacciato direttamente, non lo potrebbe essere comunque, perché intorno a sé, a parte la zona di esclusione di 30 chilometri per un raggio di 30 chilometri intorno alla centrale, ma dentro questa zona di esclusione e immediatamente intorno al sito della centrale, che dobbiamo pensare è un grosso sito, c'ha quattro reattori, c'erano quattro reattori, stanno ancora lì come cattedrali, ormai come ossatura di cattedrali. E è un'estensione molto grande e intorno a questa estensione, che è tutta recintata ovviamente, eccetera eccetera, c'è a sua volta una vasta area di protezione che è proprio antincendio, così come gran parte della zona di esclusione, di questi 30 chilometri di zona di esclusione, è attraversata da linee tagliafuoco, perché è una zona molto boschiva. Questo non è eccezionale, non è stato concepito perché la situazione di Chernobyl è eccezionale, questo sarebbe stato concepito anche se non fosse successo niente e le centrali fossero in funzione, perché è una normale protezione che si fa non solo degli impianti nucleari, ma di qualsiasi impianto industriale o anche un agglomerato urbano che si trovasse circondato da foreste e in caso di incendio una protezione fondamentale dovuta proprio a queste zone frangifiamma, che consistono appunto in spazi di separazione netta tra una parte e l'altra della foresta. Quindi la centrale non è minacciata, il sito della centrale non potrebbe essere minacciato direttamente da queste fiamme per questi motivi, né tantomeno il deposito di scorie, perché anche qui si seguita a leggere erroneamente che lì ci sia un deposito di scorie. Lì non ci sono scorie, se almeno per scorie intendiamo quei manufatti, perché questo si intende normalmente nella, diciamo così, terminologia scientifica, quei manufatti che sono di cemento, che sono di metallo, come quei cilindri, quei fusti, no? Dove si impilano, si infilano rifiuti radioattivi di vario tipo, lavorati, non meno lavorati, più o meno radioattivi, eccetera eccetera, che vengono poi sistemati in appositi depositi. La centrale di Chernobyl non è un deposito di scorie, è un cimitero in termini giornalistici, nel senso che racchiude questi ormai quattro reattori messi fuori servizio, di cui uno intombato, e cioè quello che esplose il 26 aprile del 1986, è stato racchiuso in un sarcofago prima immediatamente costruito dall'autorità sovietica all'indomani dell'incidente, e poi da un altro, che è quello attuale, costruito con un consorzio internazionale molto meglio progettato, che dovrebbe durare di più e che è una grande cupola costruita proprio intorno a questo, alle macerie di questo reattore, per contenerne le radiazioni. E tutto il resto è stato ovviamente lasciato così com'è, non è stato portato via niente, perché non si sapeva neanche dove metterlo, cioè costruire un altro deposito appositamente, magari per spostare pezzi di materiale radioattivo dalla centrale di Chernobyl, non avrebbe avuto senso. Quindi in questo senso le scorie, se si vuole usare questo termine, sono costituite dai resti di questo impianto, che però sono racchiusi completamente in questo sarcofago, e anche da questo punto di vista, come tutto il resto dell'impianto, il sarcofago che racchiude l'unità 4 distrutta non corre pericoli di incendio, se è questa una un'altra delle preoccupazioni. Viceversa, quello che sicuramente desta, suscita delle riflessioni, è il fatto che l'incendio di materiale, la combustione di materiale organico, che ha un contenuto di radioattivo ancora consistente, e quindi parliamo di foglie, di alberi, di queste cose qui, se non altro per l'effetto trascinamento che c'è sempre negli incendi, queste nuvole di fumo, di fiamme che portano poi nel cielo pulviscolo i resti della combustione, porta con sé anche delle particelle radioattive, cioè queste prendono la via, diciamo, sono sparse in alto dall'incendio stesso, dalle colonne di fumo che si alzano e poi disperse dal vento. Dove vanno? Anche qui ci sono i soliti modelli di diffusione, eccetera, eccetera. Ecco, questa dispersione c'è sicuramente stata. In che misura? Io non saprei dirlo, perché direi una sciocchezza, certamente non trascurabile nell'immediatezza, diciamo, della zona. Immediatezza significa in un arco di 100-200 chilometri, perché queste sostanze, queste particelle, questo pulviscolo che viene da lì poi ricade, non è che, cioè, non stiamo parlando di prodotti estremamente leggeri per cui la dispersione del vento potrebbe portarli a larghissima distanza. Certo, una parte è composta, formata anche da un particolato molto leggero per cui la dispersione va più lontano, ma una grossa parte, viceversa, adesso non saprei dire in che proporzione, essendo più pesante, ricade, diciamo, nei dintorni, intendendo per dintorni raggio di 200 chilometri, forse 300, ecco, quindi sicuramente a investire una città come Kiev, che tra l'altro è la capitale, che dista in linea d'aria, appunto, rientra in questo ordine di grandezza. E lì bisogna stare a quello che dicono le autorità ucraine, poi ci si crede o non ci si crede, si fa bene a non crederci, in questo caso, insomma, il dubbio è più che legittimo. Credo di più a quello, come dicevo, che dice l'Istituto di Sicurezza Nucleare francese, che per quanto riguarda l'Europa dice la traccia di questa radioattività c'è stata, se per questo è stata rilevata anche dall'ARPA Lombardia, viene giudicata molto bassa, di sotto di un microbecquerel, misura che magari non vuol dire niente, però la traccia c'è stata, quindi l'evento c'è. Quanto sia attendibile la dichiarazione delle autorità ucraine, che dicono che è trascurabile rispetto al suolo, è alla normale radioattività del suolo, è la frase fatta che si usa sempre in queste circostanze, e tanto più in un paese come l'Ucraina e in una zona che è stata colpita dall'incidente, molto colpita dall'incidente di Chernobyl. È certo che uno potrebbe dire, beh, proprio in quelle condizioni è evidente che è ancora di più trascurabile, perché lì siamo già a livelli superiori di radioattività naturale di quanto potremmo avercene, che ne so, in Italia o in Francia o in Germania, proprio a causa dell'incidente. Ma questo non vuol dire che questo trasporto ci sia stato, che quindi l'evento c'è, e che nella catena naturale delle trasmutazioni che operate dalle radiazioni, sarà difficile vedere se questa contaminazione può aver riguardato poi i foraggi degli animali, altre cose che poi entrano a loro volta nella catena alimentare. Ripeto, una valutazione quantitativa andrebbe fatta sul campo, quindi non mi azzardo assolutamente a dare nessuna cifra, né a dire è trascurabile o non è trascurabile. Dico che l'evento c'è stato, la traccia è arrivata fino qui in Europa, è stata misurata, sicuramente in Ucraina ha avuto un segno più pesante, insomma, più evidente. E che dire ancora, per quanto riguarda l'origine di questi incendi, incendi. Anche qui la considerazione più logica da fare, in qualche modo rispecchia quello che insomma si è scritto in varie parti dalla stampa internazionale, dalle agenzie eccetera, e cioè che questi incendi sono di origine dolosa. E, è credibile la domanda a quale scopo? E allora qui si aprono diversi scenari, magari da un lato più fantasiosi, dall'altro più spregiudicati. Per esempio, più fantasiosi, se noi consideriamo come è stata trattata, com'è la narrazione di questo luogo ormai da un lato maledetto, dall'altro estremamente immaginario, che è Chernobyl, qualcosa a metà tra l'inferno e la dannazione dell'umanità, di qualcosa di irripetibile e di assolutamente di indesiderabile. E beh, qui la società dello spettacolo non smette mai di funzionare. Recentemente c'è stato tutto quella miniserie di HBO che parlava di Chernobyl, peraltro fatta molto bene, ma insomma parlava dell'incidente. Ma io ricordo appena un anno prima o due anni prima, quindi due o tre anni fa, uscì un docufilm, il regista si chiamava Chad Gracia. Allora, siamo al telefono con ai boschi, come si dà fuoco ai boschi in Italia, molto spesso, insomma, per speculazioni vere e proprie sul terreno, perché questi boschi non hanno colpito solo, anzi più che altro l'hanno lambita la zona di esclusione, con qualche penetrata in una piccola parte, ma si sono sviluppati anche a 70 chilometri da Chernobyl, quindi in zone più lontane e più basse. Poi viene tutto accumulato sulla stampa e l'incendio diventa solo intorno a Chernobyl, ma non è così. Quindi c'è da mettere anche in conto questa possibilità che gli incendi di natura dolosa avessero come scopo quello che normalmente hanno gli incendi dei boschi, e cioè trasformare quella parte di terra a terra da coltivare, oppure da scopi edilizi, non lo so, insomma, ecco, a scopi speculativi di questo tipo. Certo. Them at the word, but I was fooled and I once tricked them, these friends. Allora, noi non andiamo poi a riepilogare nei dettagli l'incidente dell'86, però ci piacerebbe farci raccontare da te come hai vissuto, come fu vissuto il post-catastrofe in Italia, visto che comunque anche l'Italia utilizzava le centrali nucleari per la produzione di energia, era una scelta fatta da uno Stato anche fortemente ostacolata dall'attivismo, e quindi che cosa è successo dopo Chernobyl nella lotta contro il nucleare e come è cambiata fino ad arrivare ad oggi? Beh, Chernobyl è sicuramente è uno spartiacque per moltissime persone, direi per la maggioranza delle persone in Italia, ma non solo. Io ricordo sempre quando si parla dei grandi movimenti del passato, che si fa riferimento al solito 68, altre cose, eccetera, eccetera, che l'unico vero movimento transnazionale che c'è stato sicuramente in Europa e anche in altre parti del mondo, ma direi senz'altro in Europa, è stato proprio il movimento antinucleare. Questo movimento che nasce all'inizio degli anni 70 e non ha poco a che vedere col 68, eccetera, ha trovato veramente una orizzontalità in tantissimi paesi europei, praticamente in tutti. Non ce n'è stato uno che non abbia avuto la sua piccola componente, piccola o grande componente di movimento antinucleare, e questo a prescindere dall'ideologia. Poi c'erano ovviamente delle sfaccettature all'interno del movimento, chi era solo ambientalista, chi era ambientalista e qualcosa di più, insomma c'era tutta una gradazione, però l'ostilità, l'avversione a questa tecnologia è stata veramente transnazionale. Quindi quando arrivò Chernobyl, diciamo, il movimento antinucleare europeo si era espresso nei suoi massimi livelli in Italia e in Germania, tanto per semplificare, c'era stato in Francia, a Malville c'era stata una feroce repressione di una manifestazione, forse una delle poche manifestazioni internazionali convocata lì, dove arrivarono da tutta Europa e i CRS picchiarono veramente forte, cioè la polizia speciale, i corpi speciali della polizia francese. E però nella metà degli anni 70, Malville non a caso è nel 77-78, ma già nel 75-76 in Germania per esempio c'erano manifestazioni fortissime, insomma si bloccavano i treni che trasportavano materiale per le centrali nucleari, gli attivisti riuscirono a divellere tutte le recensioni in filo spinato, insomma recensioni anche abbastanza robuste intorno alla centrale di Brockdorf, ci furono scontri proprio memorabili, e questa cosa durò per qualche anno, insomma non fu una cosa da poco, quindi eravamo da questo punto di vista abbastanza preparati. Poi arrivò il 79, prima a Island, il primo grande incidente, diciamo, dell'epoca del nucleare di pace, e dove ci fu una parziale fusione del nocciolo, insomma, che ebbe tutta un suo andamento, e fu il primo colpo all'ideologia della sicurezza nucleare. E quindi questo scosse parecchio l'opinione pubblica internazionale, già cominciò ad avere un colpo e rafforzò il nostro punto di vista di antinucleari. Quando arrivò Chernobyl, diciamo che quasi, non eravamo contenti di quello che era successo, questo è il paradosso, perché, come si dice, un incidente di un certo tipo ti fa stare ancora nella dialettica, ho ragione io, hai torto tu, la sicurezza non c'è, eccetera. Un incidente del tipo Chernobyl mette veramente, è di carattere quasi definitivo, cioè ti spiaccia per la sua profondità e per la sua pericolosità, perché mette a rischio, come è stato, insomma, la vivibilità a migliaia di chilometri di distanza, quindi è veramente l'immagine, sia pure in piccolo, di quello che potrebbe essere una catastrofe nucleare globale, ovvero una guerra nucleare globale, fatte ovviamente le dovute proporzioni. E questo fu l'atteggiamento che vissero la gran parte della popolazione, e noi ci trovammo, soprattutto attraverso la radio, io praticamente dopo l'incidente sono stato un paio, due, tre settimane, non dico chiuso in radio, ma praticamente ci stavo dalla mattina alla sera, perché si cercava conforto, si cercavano punti di vista, si cercava di discutere, di capire, e quindi era una continua interrogazione ai microfoni della radio. Di, con me c'erano altri compagni che venivano dal mondo appunto del nucleare, sia dell'allora CNEN che dell'Enel, quindi come me impegnati nel settore, e quindi ci davamo continuamente il cambio per commentare le notizie che arrivavano, per sfatare le solite fake news, un po' come oggi, cioè anche lì ci furono cose terribili che giravano in rete, tutti si sentivano esperti e davano suggerimenti: mangiate il selenio, non mangiate quell'altro, nutritevi di questo, chiudetevi in casa, fate scorte, mangiate lo iodio, prendetelo, cosa assolutamente pericolosa, insomma, nelle dosi in cui venivano consigliate, e noi cercavamo di dare anche questo tipo di consigli, oltre che fare dei ragionamenti politici. Quindi ripeto, fu una cosa talmente grande che superò non tanto le nostre aspettative, perché nessuno si augurava un incidente nucleare, insomma, lo scrivevano solo certi giornali, che gli antinucleari avrebbero goduto se un reattore fosse successo una catastrofe, cioè, non era così, forse qualche mente un po' distorta la pensava anche così, ma insomma non era l'atteggiamento dei movimenti antinucleari. Qui quando arrivò veramente questo incidente, noi stessi, che pure ci capivamo qualcosa, stentavamo a capirne le dimensioni, la pericolosità e soprattutto come era successo. Poi ne venimmo un po' a capo di tutto, ma vivemmo insomma con questa trepidazione quell'incidente, perché poi la paura sulle persone era tangibile, come lo è oggi del resto, no? Qualche analogia c'è tra quello che succede oggi col coronavirus i giorni immediatamente successivi alla tragedia dei Cermi, e a me personalmente è capitato proprio di farla in questi giorni, perché appunto devi far fronte a questa paura, paura che da un lato è oggettiva perché sta nelle cose, sta nell'incidente, quindi nella diffusione di una nube radioattiva praticamente su tutta l'Europa, così come sta oggi per quanto riguarda la diffusione del virus. Però con quale pericolosissima aggiunta, che devi anche far fronte all'ulteriore dose di paura che viene immessa dal potere e che ti dice e che tende a terrorizzarsi, di modo che tu stia il più tranquillo possibile e non rompa le scatole. Quindi è il potere stesso che di fronte a questi avvenimenti non sa gestirli, il virus ancora meno dell'incidente nucleare, perché quello è più razionalizzabile di questo. E quindi come reazione, sì, c'è una reazione d'ordine, ma questa reazione d'ordine dettata dalla paura di non sapere affrontare queste situazioni te la scarica addosso iniettandoti te ne dà ancora di più di paura, proprio per immobilizzarti. Quindi lo sforzo maggiore che facemmo fu proprio di capire questa situazione, anche se avevamo ragione, tra virgolette, perché dice, vedi, le centrali sono pericolose, ma non ci permettevamo di porla così nella comunicazione con le altre persone, soprattutto attraverso la radio, ma anche nella propaganda. Ci ponevamo in quel momento dal punto di vista di tentare di riportare tutti quanti a una valutazione razionale di quello che stava succedendo, di non farsi prendere dal panico, perché nel panico non si ragiona, e di appunto prepararsi a quello che sarebbe stato necessario fare dopo. E qui sicuramente la parte più politica, perché poi questo ha significato, da quell'incidente fino al referendum del 1987, un rilancio grossissimo del movimento antinucleare in Italia, che con il referendum dell'87 vinto dal movimento antinucleare e l'altro che ci fu poi nel 2011, è l'unico paese al mondo che ha chiuso il nucleare con due referendum, insomma, per due volte chiamati a pronunciarsi su quello e due volte, insomma, un segno schiacciante di rifiuto di questa tecnologia. Quindi da questo punto di vista è stata sinteticamente questa la storia, diciamo, di quei giorni là e di quel periodo là. Combustion, thrusting, new versions of verses. Over kids' heads like halos, bending their brain cells like endo. Innovation, definition, different renditions of creations. Sorta like what I'm doing, styles that I be using. Wordsmith meets rap fusion, if that's a category fit for. Grammy like Source Wars and competitors better look out like Pac Jam once I recoup. Innovation, the first to influx information, no relation to Atlas, instead, Pandactin. Combating pros with passionate passages, surpassing the realm of gun-toting savages. However, able to serve them like Mr. Belvedere once confronted. They don't ever want it, cause I got my freestyle fellowship membership, but I will still get fit to ace you alone. Innovation. Presentation, original, ways of thinking, rationale, ready for consumption to each one succumbing, or rather lured by each lyric contour to the complexity of innovation. Innovation, by coastal vernacular, enables one to become a phenomenon, a sensation, accompanying pa-rum-pa-pum-pums. Innovation. Innovation. Innovation. Innovation. Finer degrees, or shall I say, meters of rap and poetry combined to make this one topic of discussion. You heard that shit, innovation. Bahamadia must be one of the last pioneers in captivity, linking vocal tones and microphone to holy matrimony. Each song composed of ritual type ceremonies. Foresight exceeds that of modern day prophet Rambo. Poi in verità le lotte antinucleari non sono concluse, perché al di fuori dei confini italiani siamo circondati da centrali nucleari, ma non solo, anche ancora all'interno del suolo italiano ci sono scorie che ancora smaltiamo. Sì, infatti ti citavo, ho citato il referendum del 2011 per dire, insomma, che questa continuità, no, anche se poi ci sono stati degli anni di silenzio, no? Cioè dopo il referendum dell'87 è cominciato questo declino, la gestione del piano di dismissione degli impianti, tutte le porcherie che sono venute fuori, i ritardi e così via, la Sogin, i diversi ruoli, e quando ha ripreso col governo Berlusconi che voleva rilanciare il nucleare, la risposta è stata quella. Però, come dici tu giustamente, la problematica della coda del nucleare ce l'abbiamo anche noi, anche se non abbiamo più impianti e nessuno al momento, ma non mai dire mai a questo mondo, si permette di riproporli. gestione di questa coda nucleare è sì, tuttora da seguire. Io la seguo costantemente, ho avuto modo di commentare anche in sede ministeriale quelle che sono i piani per il deposito nazionale, tutte le fasi in cui si dovrebbe sviluppare quest'opera, prima di scelta del sito, poi di informazione alla popolazione dove è stato indicato il sito, e cioè lo schema prevede questo. Poi si è tutto bloccato da un paio d'anni, come al solito, non so, qui le cose si congelano, ma lo schema lanciato 3-4 anni fa prevede prima una carta geologica dell'Italia, che diventa poi una carta di esclusione delle aree non idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari, e quindi è la prima grossa selezione molto importante, che dice praticamente si può fare in 10, 20, 30, 40, 50, non lo so, ma insomma un numero estremamente limitato di località in Italia. E questa carta, non a caso, ancora non si conosce, pur essendo stato detto ufficialmente che è pronta da 3 anni, però non la tengono nel cassetto per paura che si scateni anche qui l'opposizione, eccetera. Dopo di questo si aprirebbe proprio con le popolazioni interessate, dove sono stati individuati questi siti, si dovrebbe aprire tutto un dibattito con queste popolazioni, condotto da esperti del Ministero dell'Ambiente, di Sogin, di queste cose qui, insomma gli esperti nucleari che vengono a rispondere alle domande, agli interrogativi, e in qualche modo a dare le loro rassicurazioni. E ovviamente anche questo è lungi dal cominciare. Alla fine di tutto questo iter comunicativo e di validazione del sito si dovrebbe arrivare a una decisione, secondo il governo, qualunque governo finora in carica, una decisione condivisa con le popolazioni. Non so quanto questo sia possibile, insomma questa è ovviamente l'interesse maggiore da parte di chi gestisce tutta la faccenda sarebbe questo, poi se ci si arriva o no è tutto da vedere. E poi finalmente comincerebbe, se una volta raggiunto questo accordo con la popolazione del sito, la produzione locale dove si prevede di costruire questo deposito, comincerebbero tutti i lavori, il progetto praticamente non dico che c'è, ma insomma ci stanno, Sogin ci sta lavorando da tempo, e quindi via, insomma, diciamo una decina d'anni per la realizzazione di tutto, non di meno. Ma attualmente nel frattempo dove sono stoccate tutte queste residui? Nel frattempo stanno in quei depositi provvisori che esistono da 30-40 anni, insomma, che stanno in parecchie regioni d'Italia, soprattutto quelli più grossi stanno in Piemonte, in Basilicata e nel Lazio, poi ce ne sono altri piccoli sparsi un po' qua, un po' là, ma questi sono i più grossi, cioè la zona di Saluggia, per capirci, che è in provincia di Vercelli, poi c'è la Trisaia che è in provincia di Matera, lì vicino Rotondella, il comune di Rotondella, c'è questo altro sito nucleare che ospita rifiuti solidi e liquidi e 64 elementi di combustibile provenienti da una centrale nucleare statunitense di Elk River, che stanno lì dai primi anni 70 e lì sono rimasti, quindi anche quelli vanno sistemati. E poi il grosso, parecchio grosso, sta appunto a Vercelli, in questi depositi provvisori che non è che sono capannoni, anche qui insomma cerchiamo di non banalizzare e nello stesso tempo di terrorizzare le persone, non sono capannoni, sono manufatti anche recenti, per esempio quello di Saluggia è stato costruito un paio d'anni fa, un altro se ne deve costruire proprio lì alla Trisaia in Basilicata, quindi sono manufatti di cemento armato, studiati, costano un sacco di soldi, si fanno le gare, poi le gare si interrompono perché il committente della gara, quello che sta realizzando, non ritiene più conveniente proseguire. Insomma, ci sono tantissimi di questi problemi e però sono comunque depositi provvisori per definizione, perché per altrettanta definizione è la sistemazione certa e sicura secondo i canoni internazionali della normativa eccetera eccetera, è quella in un deposito definitivo per queste cose, e quindi che è quello che, come dicevo prima, si vorrebbe costruire, realizzare dopo quell'iter che ho descritto. E poi ci sono i siti degli impianti nucleari, delle vecchie centrali nucleari, cioè Caorso, Trino Vercellese, Latina e Garigliano, sono quattro, in cui anche lì ci sono dei depositi provvisori di materiale a bassa attività costituito da residui polverosi, da residui contaminati ovviamente, da residui anche metallici, anche questi contaminati ma a bassa attività, che vengono sistemati in bidoni fusti di metallo e stoccati in piccoli edifici costruiti all'interno dei siti di questi impianti. La parte che viene smontata di volta in volta delle vecchie apparecchiature, si va molto lentamente, il piano di decommissioning è molto in ritardo, però insomma, sono anche lavori di un certo impegno, per esempio lo smontaggio di una turbina, lo smontaggio del vessel del reattore, che sono pezzi di metallo, diciamo così, anche grandi, pesanti, volumi considerevoli, quindi devono essere distrutti sul posto, distrutti significa fatti a pezzi, quindi lavorati con apparecchiature particolari, segati, smembrati, fatti a pezzi, ridotti a dimensioni sempre quanto più piccole possibile, per essere poi anche loro messi o in fusti di metallo o in contenitori di cemento armato, che sono un po' più schermati dei fusti di metallo, sempre nel rispetto di certi criteri e così via. E sono lavori brutti, diciamo, no? Brutti perché rischiosi, pericolosi, si lavora, come vedete oggi, che ne so, gli infermieri e i medici che sono completamente sigillati nel campo nucleare, si lavora normalmente così quando si ha a che fare con queste cose, quindi sì, anzi, in particolare per questo tipo di lavoro, smantellamento di materiale radioattivo facendolo a pezzi con gli strumenti di qualsiasi tipo che producono un sacco di polvere, si ha proprio il respiratore con l'aria, neanche la mascherina col filtro, in certi casi serve proprio il respiratore con le bombole d'ossigeno, perché altrimenti non gliela fai, significa anche turni di lavoro particolari, insomma tutte queste cose qui. La situazione dei rifiuti quindi è questa, disseminati sul territorio nazionale in questi siti che ho detto, che sono 7-8 compresi, 10 diciamo, comprese le quattro centrali nucleari dismesse, in cui la Sogin sta lavorando per lentamente fare a pezzi tutto il materiale contaminato, con l'obiettivo, non si sa quando lo raggiungeranno, un giorno di restituire questi siti all'uso pubblico. Ora qui faccio una precisazione perché è importante. Quando è partito tutto questo programma di decommissioning, ormai più di 20 anni fa, l'obiettivo era riportare questi siti a Greenfield, che significa, come dice la parola, prato verde, ovvero restituito all'uso comune. È talmente pulito, l'abbiamo talmente pulito che ci si può andare, ridiventa un terreno, un sito normale che si può adibire a qualsiasi tipo di attività. Beh, così non è più. Nel corso del tempo i ritardi, le difficoltà eccetera eccetera, non è più un greenfield ma è un brownfield, quindi è un sito scuro su cui si possono fare, immaginare certe attività ma non altre, e quindi già questa è una grossa derubricazione delle aspettative di chiusura definitiva del ciclo nucleare. Non so se volevi precisare qualche altra cosa. No, direi che ci siamo. E comunque, insomma, questa è la situazione, va sempre seguita, adesso è dormiente perché tra la crisi politica, la crisi economica, le difficoltà dell'esecutivo, gli ultimi governi sono stati tutti governi particolari che non, sicuramente nelle loro agenda non avevano nessuna intenzione di affrontare la problematica del deposito dei rifiuti perché è estremamente impopolare, diciamocelo chiaro, hanno una paura fottuta. E quindi è stato messo da parte e il problema dorme e però si accumula nel tempo, perché più queste cose stanno dove stanno, quindi in situazioni non ideali, non sono situazioni estremamente drammatiche, ma nemmeno da non farci una riflessione sopra, per cui potrebbero in un qualsiasi momento subire un'accelerazione terribile. Faccio l'esempio di Saluggia, che è un sito in provincia di Vercelli, tra due fiumi, la Dora Baltea e un altro che non ricordo, che è abbastanza basso dal punto di vista della collocazione, per cui lì l'evento catastrofico che potrebbe compromettere tutto è proprio l'inondazione. E allora si approntano le solite misure, costruisci i muri, che non sono quelli ideali, sono delle cose posticce, insomma, no? Che si fanno perché non sai dove altro mettere, perché se devi cercare un altro posto per spostare la roba, la gente si incazza, scusate il termine, e allora tanto vale cercare il deposito nazionale a quel punto, no? Se devo giocare una cosa, per cui li lascio lì e cerco di sistemare, di tamponare la situazione con questi provvedimenti, che però la pericolosità del sito resta, perché l'inondazione, il pericolo di inondazione resta, così come magari da un'altra parte potrebbe essere un terremoto. Per fortuna, che ne so, il sito più esposto ai terremoti che mi viene in mente oggi come oggi è forse la Casaccia intorno a Roma, che insomma qualche rischio di terremoto può correrlo, ma abbastanza relativo. Se no, per gli impianti nucleari, i vecchi impianti nucleari erano già stati validati all'epoca della progettazione dal punto di vista dei terremoti. Quindi se era stato validato l'impianto nucleare funzionante, a maggior ragione può ospitare rifiuti a bassa media attività. Queste sono le logiche, insomma, no, che stanno poi in questa situazione. Però ripeto, la situazione non è quella ideale, sanno perfettamente tutti quelli che si sono avvicendati al governo che va sanata, ce lo ricorda l'Unione Europea, che per 3 anni di seguito ci ha messo in mora, ci ha fatto pagare anche le multe non enormi, ma insomma consistenti in termini di denaro, perché non sono stati approntati tutta una serie di documenti sulla sistemazione dei rifiuti nucleari, perché ci sono normative anche in questo senso. Quindi insomma, diciamo che è una questione calda che tengono lì in frigorifero, non avendo anche qui il coraggio politico di affrontarla. Soprattutto, lo ripeto, quello fondamentale è presentarsi davanti alla popolazione e dire: le cose stanno così, siamo sicuri di questo al 100%, di quest'altra cosa siamo sicuri all'80%, di quest'altra al 40%, cioè non lo faranno mai questo. Io li aspetto, come tanti altri compagni e compagne antinucleari, aspetto questo giorno per vedere appunto con che faccia si presenteranno. Vous me reconnaissez? Est-ce moi? Zombie! La moche! camion? Maiali? Me li fai vedere? Ehi, ehi, bimbina. Cosa fai in giro? Vai a casa, dai, va a casa. Io devo andare ad Amba e poi al grande ospedale. Nessuno può attraversare la città oggi. Vuoi riuscirci proprio tu, eh? Va a casa, dai. Caporale, via la gente! Via, fila, fila. Fermi! Non si muova! Non c'è niente da guardare lì dentro, forza, via, marciare! Marciare cosa? Al massimo andiamo via camminando. Senta, noi siamo civili, non siamo militari. Non esistono più i civili. Guardi, scusi, io di guerra ne ho fatte fin troppo. E lo dico qui davanti ai ragazzini. Io in guerra non ci vado più. E se ci devo andare un'altra volta, questa volta il nemico me lo scelgo da me. Chi scegliamo? Il Brasile. Brasile. Ed eccoci, siamo tornati dopo questa lunga, interessantissima intervista per la quale... Binke, ci sei? Sei con noi? Ci sono, grande. Ci sono. Beh, ringraziamo tantissimo Bricco Baldo e il compagno attivista romano, redattore di Radio Onda Rossa per questa intervista che si potrà riascoltare per intero da stasera sul sito della radio, così come il prossimo contributo che fra l'altro fra poco manderemo. Entrambi poi fra l'altro saranno anche riprogrammati nel palinsesto speciale della radio della prossima settimana che, come ormai sapete, viene aggiornato ogni domenica sera. Infatti da stasera si potrà trovare sul sito della radio la programmazione della nuova settimana. Nel frattempo ci hanno scritto tantissimo, hai visto, Pink, quante cose ci hanno scritto? Sì, fighissimo, cioè, infatti diciamo che è stata una trasmissione corale del solito, perché ci hanno anche, oltre a avere due voci in regia, ne abbiamo avute anche altre per scritto. Tra l'altro questa canzone, l'ultima che abbiamo appena mandato, era una richiesta, anche quella che c'era stata fatta poco fa. Abbiamo rinunciato, Pink ha deciso di rinunciare ai flogging molli, pensa te amico che ci hai scritto, per l'Enegres Vert, Zobi Lamouche, era l'ultima traccia che abbiamo mandato. Non dico niente, non commento. Ma cos'altro ci hanno scritto? Ci hanno scritto un sacco di cose, alcune, beh, una magari la dico io al volo. Ci ha scritto il Fondo Comunista che ci annuncia del suo primo maggio, ha organizzato un primo maggio party, l'appuntamento è su Zoom dalle 10 alle 12 per cucinare assieme, si può scrivere per partecipare a Gabriele, credoprica@gmail.com, c'è un evento Facebook, si chiama Primo Maggio Video Party, fra l'altro per tutte le vulnerabilità e i problemi di Zoom, rimando alla penultima puntata di Coccoli al Silicio, super interessante su questo. E poi che cosa ci hanno scritto, Pink? No, facendo il gancio così con l'intervista appena finita, in realtà doppio gancio, cioè proprio salti mortali così, perché ci segnalavano che Caterina Bueno tra l'altro faceva sempre benefit, cantava benefit per proprio i movimenti antinucleare e altri movimenti di quel periodo, quindi insomma direi che... Senza assolutamente saperlo siamo stati sul pezzo, anzi dovremmo far finta di averlo fatto apposta, ma no. Tra l'altro io mi ricordo l'ultima volta che purtroppo ho visto Caterina Bueno, che credo fra l'altro sia stato l'ultimo suo concerto, in realtà era alla Vetrina Anarchica, alla Biennale della Vetrina Anarchica, in una delle prime edizioni, sì, a Firenze. Questo è stato un momento in cui ho fatto salire il volume, ormai la smetto di dirlo, però direi che è il caso. Però l'ho capito. La racconto io una cosa anche, che fra l'altro, oppure, sì, rimaniamo un attimo sull'intervista magari che abbiamo appena sentito, perché è stata citata la serie dell'HBO Chernobyl, ci sono alcuni articoli che sono, ce l'hanno segnalato uno, che sono stati diffusi ultimamente. Ce n'è uno in particolare interessante che parla di questa serie. Sono articoli, allora, la situazione è questa: è stata apprezzata, ha visibilità altissime, voti altissimi un po' in tutto il mondo, tranne che, ma si poteva forse immaginare, in Russia, dove qualcuno ha parlato di questa serie come di un falso storico, enfatizzando tante libertà narrative. In particolare la Express Gazzetta ha parlato di una miniserie fatta per riprogrammare le menti dei giovani spettatori, mentre il Kosmolskaya Pravda ha scritto che la serie è un'opera di propaganda antirussa che ha lo scopo principale di rovinare l'immagine della potenza nucleare della Russia di oggi. E l'ultima, sempre l'Express Gazzetta, ha scritto che gli americani non sarebbero americani se non riempissero le serie con un pacchetto completo dei loro temi preferiti per la russofobia. Ecco, chissà che cosa penseranno fra l'altro questi giornali della nuova serie che si intitola per l'appunto Chernobyl e che è attualmente in post-produzione, è già stata girata in Bielorussia, sarà trasmessa dal canale NTV che è controllato fra l'altro dalla Gazprom, la potentissima compagnia energetica controllata dal governo russo e che sarà anche finanziata dal Ministero della Cultura russo. È interessante vedere come di questa serie in realtà si sanno poche cose, ma quello che si sa di per certo è che parlerà di alcuni agenti del KGB che indagano su un agente della CIA sotto copertura e sulle sue attività svolte nella centrale di Chernobyl. Il regista, Alexei Muradov, regista della serie russa, ha detto che la trama si basa su una teoria non negata da diversi storici, secondo la quale il giorno dell'esplosione un agente dell'intelligence nemica era presente nella centrale. Muradov, il regista, ha anche detto che la serie dirà agli spettatori cose successe davvero. Beh, interessantissimo. Guerra fredda forever, veramente, sì. Sì, ci stava, che bello, ne sentivamo proprio la mancanza. No, tra l'altro, sul tema proprio della serie dell'HBO, invece, vi invito ad ascoltare su Radio Onda Rossa uno speciale piuttosto lungo, anzi in realtà due trasmissioni sono state fatte, con il redattore di cui prima, che la cui voce abbiamo sentito prima, e che analizzano lungamente in realtà la serie dell'HBO, devo dire commentandola in maniera piuttosto impietosa, perché appunto se da un lato da un punto di vista tecnico sicuramente è una serie fatta molto bene, questo è innegabile, io l'ho apprezzata, devo dire, però effettivamente l'approccio è quello che poi dà un po' corda alla narrazione che è stata quella poi dall'86 in poi, ovvero sì, vabbè, le mele marce, in fondo era il problema, lì è stata l'incompetenza del regime sovietico e il fatto che sono chiaramente figli di Satana e sono per lo più oltretutto incompetenti, e quindi è per questo che c'è stata questa grande tragedia, altrimenti chiaramente in un altro modello sociale democratico questa cosa non sarebbe mai potuta succedere, infatti si è vista a Fukushima. Però cioè, effettivamente il grande assente in questo scontro tra appunto da guerra fredda è il la critica seria e alla scelta nucleare, al fatto che questo tipo di tecnologia è pericolosa e non sostenibile a prescindere da chi la metta in piedi. Quindi effettivamente questo scontro tra le due serie televisive fa abbastanza, farebbe ridere se non facesse piangere anche per certi versi, però insomma. Chissà quale sarà la narrazione, fra l'altro, dominante della serie russa, oltre a quella dell'infiltrato americano, probabilmente sarà anche quella un'opera. Va bene, la vedremo comunque e ne riparleremo magari proprio col compagno di Radio Onda Rossa. Sì, dai. Assolutamente. Ecco, ora ho fatto casino, però va bene, ci siamo. Ti hanno anche scritto per ritornare al tema con cui avevamo aperto, forse del 25 aprile? Sì, tra l'altro, infatti, così prima di passare all'ultima parte della trasmissione con cui poi vi salutiamo, anche perché stiamo ovviamente sforando, ma non poteva essere diverso. Perché abbiamo colonizzato la domenica, scusa, volevo far notare questa cosa, in effetti. Programma di letteratura, certo. Poi la fuga del gatto e poi di nuovo questa diretta assieme, vabbè. Oddio, è vero, ci siamo veramente allargati tantissimo. È stata nostra la radio. Sì, sì, infatti poi ora che abbiamo scoperto questo metodo di trasmettere da varie regie, da varie wombat regie, ciao, non vi libererete più di noi. No, volevo sì leggere un piccolo contributo che c'era arrivato per aggiungere al racconto collettivo che abbiamo fatto a inizio trasmissione del 25 aprile passato, appunto ieri, e vi volevo leggere questo contributo che raccontava cosa è successo in quel di Castello, il Sode Castello, il quartiere, la periferia nord di Firenze. Ci dicono, allora, una ventina circa di persone del quartiere, distanziate ovviamente ma molto unite nell'interno, prima di andare alla lapide, ci sono varie lapidi che ricordano varie stragi di civili avvenute a Castello, così un inciso mio per spiegare, prima di andare alla lapide sono passati in via della Petraia per cantare Bella Ciao al partigiano Fumo, che se l'è goduta tutta stando seduto su una sedia di fronte a casa col mento appoggiato al bastone. È stato molto molto toccante, e so che già dalla mattina c'era stata gente comunque in via Crocetta, e poi dalle 15 molti hanno aperto le finestre, hanno cantato Bella Ciao lungo la parte di via Reginaldo Giuliani che va dal circolo fino alla lapide di via Crocetta, mentre noi eravamo giù a mettere i fiori e i biglietti. Insomma, un 25 aprile riuscito e condiviso. E mi ha fatto molto piacere, e quindi ci tenevo a raccontarvelo. E come no. E veleggiamo verso l'ultimo tema di oggi, che dici? Sì. Sì, dai, ci sì, sta. Si è fatta sì, comunque una certa. E allora, dai, vi raccontiamo adesso, non noi, anzi lasciamo parola, ma e andiamo oltre confine, andiamo in Svizzera e andiamo a vedere come l'emergenza del Covid è stata lì affrontata. Beh, diciamo che magari ce lo aspettavamo, ma sembra un po' un altro mondo rispetto all'Italia, non che prima del resto non lo fosse, ma anche in questa situazione, insomma, tante differenze. Sarà un contributo a più voci, ci saranno quattro voci. Parleremo di economia e finanza, del punto di vista dei lavoratori, dei sindacati, la situazione sanitaria, la questione di genere, in generale forse posso dire come affinità e divergenze fra i compagni svizzeri e noi. Questa che stiamo per mandare è comunque un contributo realizzato assieme alla Fabbrica di Zurigo, che è un'associazione politico-culturale di immigrati italiani, appunto, che si trova a Zurigo, e che si ritrovano assieme ad altri gruppi, fra cui Aufbau, alcuni comitati di scopo, Ischierda Unida, in uno spazio in zona Langstrasse. Fanno varie iniziative politiche, e ci sono due siti di riferimento, uno è la pagina Facebook Fabbrica di Zurigo, oppure il sito vero e proprio fabbricadizurigo.ch, ci sono diverse informazioni, si può andare un po' a vedere lì. Un nostro compagno, Samuele, ha parlato con alcuni degli attivisti della Fabbrica di Zurigo di tutti questi temi. Anche questa intervista, anche questo contributo sarà poi da stasera disponibile sul pod, come podcast, sul sito della radio, e io direi di mandarlo subito. Sì, dai, che è già tardi. E ci risentiamo più tardi per i saluti, viva! Ciao a tutti e tutte, wombati fiorentini e non, questo è il contributo da Zurigo, prodotto dalla Fabbrica di Zurigo, per ringraziare e per informare i wombati fiorentini che ci stanno permettendo di non passare da soli queste giornate e soprattutto di fare della sana informazione con il palinsesto speciale di Radio Wombat, che si dota ogni giorno di una diretta alle ore 19, trasmessa sulle frequenze 13.59 in AM, oppure sia in streaming, oppure grazie ai podcast su radiounwombat.noblogs.org. Oggi, come ho detto, parliamo della Svizzera e dalla Svizzera, in un collegamento collettivo, insieme ai compagni e le compagne della Fabbrica di Zurigo, per riportare in Italia quello che succede qua. per fare confronti, ma anche consapevoli che le differenze sono sostanziali e che la situazione è ancora in una fase in cui ci è forse impossibile dare conclusioni, ma certamente è bene fare l'informazione necessaria in questo caso. Il primo contributo è da parte di Ivan, che lavora in finanza, quindi per il capitale con la K, mi è stato fatto notare di sottolineare, da circa 18 anni, e ci spiegherà come la Svizzera arriva a questo momento di crisi e come decide di affrontarlo. Grazie Ivan per la tua disponibilità, a te la parola. Grazie Samuele. Innanzitutto vorrei dire che la Svizzera è arrivata a questa emergenza pandemica in ottime condizioni economico-finanziarie. Questo ha permesso anche di rispondere molto velocemente a questa emergenza fornendo degli aiuti concreti. Già prima dell'emergenza il debito in rapporto al PIL era al 26,7%. E questo è molto al di sotto, per esempio, dei limiti di Maastricht, che sono al 60%, o ovviamente la posizione italiana, che si attestava attorno al 135%. Le misure prese dal Consiglio federale per la compensazione per la perdita di reddito dovrebbero costare circa 4,6 miliardi di franchi al mese, ovvero circa 4,4 miliardi di euro. Questo rappresenta lo 0,64% del PIL. Inoltre, la Confederazione ha implementato molto velocemente prestiti alle imprese che sono garantiti dallo Stato, e questo è per un importo di circa 20 miliardi di franchi, un ulteriore 2,8% del PIL. Oltre a queste misure eccezionali, in Svizzera esisteva già l'opzione del Kurzarbeit, ovvero l'indennità per la riduzione temporanea dell'orario di lavoro. Negli anni il picco maggiore di richieste è stato nel 2008-2009, durante la crisi finanziaria, e è stato del 2,1% della forza lavoro. Il Kurzarbeit non viene richiesto dai lavoratori, ma dalle aziende, quindi diciamo è un aiuto che è dato alle aziende, ma che aiuta anche i lavoratori. In questo caso, per permettere il pagamento veloce, che è fondamentale in questo periodo di crisi, il Consiglio federale ha anche snellito le procedure burocratiche, ha ridotto il tempo di attesa e anche prolungato il periodo di questa misura. Per favorire le aziende ha anche garantito anticipi, in questo modo sono in grado di pagarlo se le aziende hanno problemi di liquidità, cosa abbastanza comune in questo periodo. Inoltre, il sussidio di disoccupazione è stato esteso di ulteriori 120 giorni, così evita che le persone a cui scade il sussidio durante il periodo non si trovino in una situazione di difficoltà. Inoltre, negli anni scorsi il tasso di disoccupazione è stato molto basso e il fondo per la disoccupazione che finanzia questi aiuti non aveva alcun debito alla fine dell'anno precedente. Quindi ha una notevole flessibilità finanziaria perché appunto ha dei fondi propri e può anche indebitarsi. È stato notato che le disponibilità sono per circa 2-3 mesi, quindi se la crisi dovesse durare per 2-3 mesi, questo fondo non avrà alcun problema. Se dovesse prolungarsi, ovviamente saranno necessarie ulteriori misure. Ma il governo ha già annunciato che monitorerà la situazione e prenderà decisioni con debito anticipo. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il Consiglio prevede di fornire sussidi ai lavoratori dei settori colpiti dalla crisi, che in particolare sono l'arte, il turismo, i servizi alle persone, e coprirà fino all'80% del reddito con un massimo di quasi 200 franchi al giorno. Per passare alle imprese, il governo federale ha istituito dei prestiti garantiti. Quindi le imprese possono chiedere fino al 10% dei ricavi dell'anno precedente con un tetto di 20 milioni. Fino a 500.000 di franchi il prestito è totalmente garantito dallo Stato e gli interessi sono pari allo 0%. Sopra questa cifra la garanzia scende all'85% e l'interesse sale allo 0,5%. E questi prestiti devono essere ripagati entro 5 anni, in qualche caso 7, e questi fondi sono erogati dalle banche private, ma ricevono la liquidità dalla Banca Nazionale Svizzera. Quindi per le banche private non rappresenta un costo o utilizzo di fondi propri. Nel suo insieme, tutte queste misure dovrebbero raggiungere il 6% del PIL della Svizzera, ovvero circa 43 miliardi di franchi. Tuttavia, negli anni precedenti, la Svizzera ha sempre generato un surplus, quindi non avrà neanche necessità di emettere ulteriori debito se le misure si limiteranno a queste cifre. Comunque, in caso di necessità, la Svizzera si può indebitare a tassi negativi, perché al momento il tasso di interesse in Svizzera è negativo. Inoltre, la Svizzera gode di un rating di AAA. Quindi, nonostante i costi che sono notevoli come in tutti i paesi, per ora non ci sono dubbi che il paese manterrà il rating di credito che è il più alto, la AAA. Per esempio anche la Germania gode dello stesso rating e una struttura federale molto simile. Però se facciamo un confronto, il debito sul PIL della Germania supera l'80%, mentre quello della Svizzera è sotto il 30%. In generale direi che la Confederazione è intervenuta in modo molto veloce e concreto nel settore economico. Direi che le uniche pecche erano il ritardo per definire le misure per i lavoratori autonomi e inoltre ha dimenticato un po' il settore delle start-up, ovvero le aziende giovani e innovative. La Svizzera è stata recentemente votata come il paese più innovativo al mondo e ha vari distretti produttivi specializzati, tipo la Crypto Valley a Zug, o molte aziende nel settore biotech e medtech. Queste imprese ovviamente non producono molti ricavi, quindi non possono accedere ai prestiti garantiti dallo Stato, ovvero l'importo dei prestiti sarà molto basso. I vari cantoni, che sono diciamo le regioni, hanno sopperito a tale errore, ma è un po' strano vedere questa mancanza di considerazione del Consiglio federale per un settore che diciamo è stato molto pubblicizzato negli ultimi anni. Per finire, direi che le misure di sostegno sono tipiche di una situazione d'emergenza. Però a differenza di altri paesi, la Svizzera non ha ancora definito le misure di stimolo della domanda, dato che al momento sia la domanda che l'offerta sono limitate dalle misure di contenimento. E non appena si avrà un piano di rilassamento delle misure, a cui la Confederazione sta già pensando e ha già annunciato qualcosa la settimana scorsa, la Svizzera dovrà mettere in campo ulteriori risorse per stimolare la ripresa e la domanda dei consumatori. Ma direi che è ancora presto per considerare queste misure. Grazie Ivan. Prego. E a questo punto direi di passare la parola a Mattia, giornalista del giornale Area, del sindacato Unia. Mattia, puoi raccontarci il punto di vista della classe lavoratrice che nonostante quanto spiegato da Ivan, capitalisticamente parlando, sembra che l'economia svizzera abbia le spalle larghe per affrontare questa crisi, però ci sono alcuni settori lavorativi che sicuramente qualche sofferenza ce l'hanno e in questa crisi sono ancora più sotto pressione. Puoi parlarci un po' dal punto di vista quindi del lavoro, di quello che sta succedendo? Sì, allora, il punto di vista del lavoro è il seguente. Secondo il fronte sindacale, il governo ha risposto abbastanza bene, anzi bene direi, all'emergenza, ha esteso il diritto all'indennità per il lavoro ridotto anche ai lavoratori precari, è intervenuto sulla disoccupazione e ha stanziato parecchi miliardi per sostenere le imprese. Ovviamente si tratta appunto di prime misure. Ora il grande quesito è il sostegno della domanda. E in questo senso i sindacati propongono di sostenere i salari, di sostenere i redditi medio-bassi e di concedere un'indennità per lavoro ridotto al 100%, attualmente è all'80%. La tesi sindacale è la seguente: se la classe lavoratrice mantiene il livello salariale, può anche tornare a fare degli acquisti una volta che le misure sanitarie saranno allentate. E poi ovviamente c'è tutto un problema legato a quelle categorie di lavoratori e lavoratrici che sono rimaste escluse. C'è un grande problema relativo ai lavoratori e alle lavoratrici delle sfere domestiche. Pensiamo alle donne delle pulizie, alle persone che lavorano nelle tante case appunto che usufruiscono di lavoratori domestici. Queste sono escluse dall'indennità per lavoro ridotto e potremmo andare incontro nei prossimi mesi a un'emergenza sociale se il governo non farà nulla. C'è anche un altro problema sottolineato da più parti, non dai sindacati, ma diciamo c'è un po' di ansia rispetto a questo. Il fatto che piccole e medie aziende hanno al momento accesso alla liquidità, ma non è sicuro che nei prossimi mesi e nei prossimi anni potranno ripagare il debito. Quindi condivido la tesi di Ivana, ma rimangono molti fronti aperti e occorre intervenire, occorre stanziare ulteriori soldi. Ci sono altri temi che vorrei sottolineare. Innanzitutto un tema che non riguarda solo la Svizzera, riguarda tutti i lavoratori del mondo. Anche qui in Svizzera l'emergenza è stata gestita da categorie di lavoratori che sono stati in prima linea. Pensiamo ad esempio ai lavoratori della sanità in primissima linea, ai lavoratori delle cure, del commercio al dettaglio, e sono categorie appunto che hanno permesso al paese di funzionare in questa situazione. E grazie a questa pandemia ci siamo accorti in Svizzera della centralità di queste professioni, che sono cosiddette professioni femminili e sono anche purtroppo professioni mal pagate. Può stupire, ma anche la ricca Svizzera conosce i salari bassi, quantomeno se rapportati al costo esorbitante della vita. Infatti qui in Svizzera, adesso potrò scandalizzare, ma un salario di 4.000 franchi, che è il salario diciamo di base di chi lavora nei supermercati, è un salario, uno stipendio che non permette a tutti di arrivare a fine del mese, o quantomeno non tranquilli. Soprattutto penso a lavoratrici e lavoratori che hanno famiglie. E questa questione dei salari bassi in certe categorie potrebbe riemergere dopo la crisi. Infatti questo discorso delle professioni femminili è iniziato nel 2019, quando le lavoratrici svizzere sono scese in piazza, hanno scioperato il 14 giugno del 2019 per richiedere la parità salariale tra uomo e donna, ma anche degli aumenti salariali generalizzati per queste categorie. E per il momento però abbiamo sentito solo degli applausi, ma la questione è ancora aperta. Una questione, ora si parla di riapertura, ma la questione che nel mondo del lavoro ha tenuto banco, soprattutto nella Svizzera tedesca, era la questione della chiusura dei settori produttivi non essenziali. Il Ticino, il cantone di lingua italiana, ha chiuso buona parte delle realtà produttive. Invece nella parte svizzero-tedesca l'economia ha imposto la sua legge. C'era molto nervosismo sui cantieri, i lavoratori, i muratori hanno raccolto, i sindacati hanno raccolto migliaia di firme tra i muratori per la chiusura dei cantieri, ma questo non è servito. Nella Svizzera francese invece si è scelta una sorta di via di mezzo. Ci sono state meno chiusure rispetto al Ticino, o chiusure diciamo temporanee, ma i controlli sono stati molto più stringenti e le risorse messe in campo anche per controlli straordinari sono stati maggiori. Quindi la mia tesi è questa: il governo è intervenuto in maniera seria, ma adesso è il momento di continuare a sostenere l'economia e soprattutto sostenere i lavoratori. Come ha detto Ivan, la cassa disoccupazione è sana, ma nei prossimi mesi occorrerà forse finanziarla, altrimenti nei prossimi anni chi ripagherà questi soldi saranno gli stessi lavoratori a cui verranno detratte, a cui appunto le cui trattenute potrebbero diventare maggiori rispetto adesso. E un ultimo dato, ora siamo al 3% di disoccupati, una cifra per la Svizzera non bassa, ma il governo prevede un aumento nei prossimi mesi fino al 7%. Anche qui sembrano percentuali molto basse rispetto al resto d'Europa, ma dobbiamo considerare che il 7% sarebbe un record assoluto per la Svizzera dal dopoguerra ad oggi. Bene, grazie Mattia. La manifestazione dell'8 marzo che ricordavi, tra l'altro quest'anno ricordo bene che si è svolta ed è stata, se non erro, l'ultima delle manifestazioni organizzate all'ombra della pandemia, prima dell'imminente divieto di organizzare riunioni pubbliche o altrimenti detti assembramenti, che infatti divieto che è arrivato il 13 di marzo. Sì. In realtà ricordavo lo sciopero generale delle donne del 2019 che è avvenuto il 14 giugno. Sì, quest'anno sì. Poi l'8 marzo gruppi femministi, alcune lavoratrici hanno riorganizzato una manifestazione, però si è trattato di un evento molto più contenuto. Mentre nel 2019 stiamo parlando di una delle più grandi mobilitazioni della storia della Svizzera moderna. Sì, certo, quest'anno c'è stato il depotenziamento, ovviamente a causa di questa pandemia, ma sicuramente speriamo che a riprendere della vita non normale, perché ci ripetiamo sempre che non torneremo alla vita di prima, però torneremo a lottare, speriamo che queste lotte riprendano forza e centralità anche tenendo conto delle osservazioni sui lavori femminili che hai fatto. E a proposito quindi di donne, finalmente una voce di donna che lavora in un settore centrale, Chiara, biologa. Vuoi spiegarci della situazione epidemiologica svizzera, quando è cominciato a arrivare l'allarme in Svizzera e come si è evoluta la situazione fino ad oggi? Vai Chiara. Ciao a tutti, vi parlo un po' di qual è la situazione epidemiologica svizzera. La Svizzera aveva un piano per affrontare le pandemie di influenza, perché ha una legge sulle epidemie, e questo piano definiva un po' le strategie da adottare in caso appunto di una pandemia influenzale, quindi quali sono i ruoli del governo centrale, quali sono i ruoli dei cantoni e che tipo di risposte si possono dare. E il piano prevedeva anche delle scorte di materiale sanitario e quindi la Svizzera si è ritrovata relativamente preparata a questa cosa. E il primo caso in Svizzera è stato rintracciato il 25 febbraio e subito dopo è scattata un po' una situazione d'allarme e sono state vietate per prima cosa le manifestazioni con più di 1000 persone. Il 6 marzo c'è stato il primo decesso e quindi sono state emanate immediatamente delle raccomandazioni sia per la popolazione che per le aziende e quindi per i datori di lavoro. Anche i datori di lavoro avevano poi, in base alla legge sulle epidemie, già dei piani contro queste pandemie influenzali e quindi le misure che sono state prese sono state poi molto graduali nel tempo. Le aziende hanno messo in atto una serie di, appunto, hanno messo subito i lavoratori a casa, hanno annullato i viaggi, hanno adottato delle misure per evitare un po' le contaminazioni, quindi disinfettanti, schermi protettori nei supermercati, cose di questo genere. E alla popolazione è stato detto appunto di lavarsi le mani, tenersi a distanza, cose di questo tipo. E il 13 marzo, insomma, già la situazione era abbastanza importante dal punto di vista epidemiologico, con molti casi, e quindi, diciamo, la Confederazione, il governo centrale, ha deciso di chiudere le scuole e limitare il traffico frontaliero verso, insomma, con l'Italia, e insomma ha proibito anche manifestazioni con oltre 100 persone. Successivamente è stata dichiarata la situazione straordinaria. Questo vuol dire che il Consiglio federale ha preso in mano, diciamo, ha centralizzato molto i provvedimenti, togliendo un po' di potere ai cantoni, e contemporaneamente il 16 marzo ha chiuso i negozi, i ristoranti, insomma tutte le attività, il vero lockdown, diciamo. Sono state chiuse anche, diciamo, le frontiere con gli altri paesi di confine, e si è arrivati il 20 marzo a, addirittura, appunto, a proibire assembramenti di più di 5 persone per strada, e è stata finalmente data la raccomandazione alla popolazione di restare a casa. Diciamo, il picco dei contagi c'è stato tra il 18 marzo e il 3 aprile, con circa 1000 contagi al giorno, mentre il picco dei decessi è stato un po' in ritardo tra il 30 marzo e l'8 aprile. Il 14 aprile, diciamo, il governo ha fatto una conferenza stampa in cui, diciamo, si diceva che probabilmente questo picco era passato, cioè eravamo, insomma, a 25.000 contagi e 3.000 ricoveri e 900 morti, e con 400 persone in terapia intensiva, e, insomma, diciamo, però la considerazione sulla terapia intensiva è stata che questo numero di persone era molto stabile nel tempo, e quindi effettivamente si poteva pensare, diciamo, a una situazione tendenzialmente sotto controllo, e quindi, diciamo, poi piano piano anche la Svizzera sta andando verso delle riaperture. Ok, quindi io, scusa, avrei bisogno di un paio di domande da farti. La prima, hai detto che la Svizzera si è fatta trovare relativamente pronta grazie al piano, il piano del 2005 in caso di epidemia. Come? Piano pandemico. Piano pandemico. Cosa intendi con relativamente pronta? Questo era un piano pandemico strutturato su un'epidemia di influenza, che è, è sempre un virus respiratorio, però è un po' diverso. Per esempio, c'era un medicinale antivirale, la Svizzera è l'unica, diciamo, a avere riserve di un antivirale, probabilmente, che però non è utile in questo caso. Le scorte di alcol non erano state previste, per i disinfettanti, le mascherine solo quelle ad alto filtraggio, insomma, si prevedeva probabilmente una pandemia di un virus un po' più, diciamo, non così contagioso e non così importante dal punto di vista forse della mortalità. Poi, insomma, la mortalità in Svizzera è stata anche relativamente bassa, gli ospedali secondo me hanno tenuto, tanto è vero che adesso, insomma, si prevede di riaprire, probabilmente qualcuno ha già aperto, e perché, diciamo, siamo 1100 decessi, un pochino di più, però. E su questo picco che dovrebbe essere stato superato in Svizzera, cosa ne pensi? Possiamo stare sicuri, o allora, potrebbe, io credo, essere un'osservazione picco probabilmente è stato superato, e quello, diciamo, che non è molto chiaro è effettivamente se queste misure, dopo, diciamo, un allentamento delle misure, no, così restrittive sulla popolazione e sul mondo del lavoro, diciamo, se effettivamente in realtà poi tutti questi contagi, perché siamo quasi a 28.000 persone contagiate, quindi, cioè, sono tanti rispetto, insomma, siamo alla metà che alla Lombardia, cioè non è paragonabile con alcune regioni italiane, per esempio quelle del centro-sud, sono molti contagi, e non è chiaro quanto siano tenuti sotto controllo. Per esempio, l'isolamento è previsto solo per 10 giorni, la quarantena, e mentre per esempio non viene fatta quarantena in casi, diciamo, di contatto avuto in ambito, diciamo, scolastico, in ambito lavorativo, insomma, queste cose, la quarantena di 10 giorni normalmente viene considerata, insomma, sotto i limiti, ecco. E non metterla proprio in caso, diciamo, di contagio in un'aula scolastica o in un ufficio diventa una cosa un po' effettivamente forse rischiosa. E tra l'altro, per esempio, la Svizzera ha fatto molti tamponi, però secondo me non sono così mirati, perché vengono pagati dallo Stato solo nel caso, diciamo, di insomma, malattia grave, quindi di ricovero ospedaliero, o al personale sanitario. Ma per esempio, diciamo, se io sto male e chiamo il mio medico, sarà lui a valutare se farmi il tampone, e il tampone verrà pagato dalle assicurazioni malattia che tutti quanti paghiamo. Quindi l'uso del tampone non è così mirato come si sta suggerendo in questo momento, di usare, insomma, i tamponi per tracciare i contatti. Effettivamente. Ecco, hai fatto riferimento alle assicurazioni, vogliamo magari in due parole spiegare com'è la sanità svizzera, se pubblica, privata? E dunque, la sanità è privata, nel senso che ognuno paga la sua assicurazione malattia, e quindi probabilmente forse c'è stato, insomma, c'è tuttora un problema su chi paga le cure, questo non lo so, forse Michela è più esperta di me in questo senso, perché vive in Svizzera da molti più anni. Però sì, insomma, c'è il problema del privato, e quindi di quali costi sì. Lo Stato e quali si assumono invece le assicurazioni sanitarie. Sì, e questo va un po' a depotenziare il ruolo dei tamponi, quindi, perché se i tamponi servono solo a confermare che un caso si tratti o meno di Covid nel momento in cui arriva ad essere gravemente malato, diciamo che questo sistema sanitario privato evidenzia come la prevenzione non sia certamente una priorità, e questo sarà un capitolo da aprire. Quando, cioè, aprire già adesso in ottica di una fase 2, cioè se questa epidemia davvero apre una nuova fase delle nostre vite, dove dobbiamo considerare rischi di nuovi virus non facilmente identificabili o con alta capacità di mutazione, il lavoro di prevenzione è più difficile e sicuramente molto costoso, e prevede bassi profitti, quindi esatto. Speriamo che questa sia un'occasione per mettere in discussione questo paradigma. Sì, io penso che sia stato messo troppo in discussione, perché tuttora lo Stato non si sta assumendo i costi, appunto, per evitare una seconda ondata di contagi, perché se non tieni sotto controllo tracciando adeguatamente, quindi non metti tu personalmente i saldi, è probabile che arrivi una seconda ondata, forse prima del previsto. Soldi che Ivan ci faceva notare che in Svizzera non mancano e potrebbero essere investiti. non so se vuoi proporre qualche altra osservazione, se no abbiamo già fatto un bel contenuto, e dimmi tu. No, altrimenti ti ringrazio. Le cose essenziali le ho dette, credo. Ringrazio te, ringrazio tutti. Ciao. Grazie Fabbrica di Zurigo, e grazie Radio Wombat. Stay Wombat, stay Rebel. Ciao a tutte e tutti. Eccoci, sì, stay Wombat, stay Rebel. Anche noi ringraziamo tantissimo Samuele e la Fabbrica di Zurigo per questo interessantissimo contributo. Grandi, grazie ragazzi. I floghi molli, come sentite, li ho voluti mettere lo stesso alla fine in sottofondo per questa uscita. Pink, che dici? Facciamo un saluto qua? Come sì, niente, alla fine dai, ce l'abbiamo fatta, è stato un ottimo risultato. È stato emozionante riuscire a portare a casa questa diretta congiunta da distante, da ripetere, rifacciamolo. Sicuramente. Io vorrei soltanto ricordare che dopo di noi alle 22 la solita replica di Uru, voci, suoni e notizie dal continente africano, invece tutte le altre trasmissioni e le letture di quasi mezzanotte alle 23, invece tutte le altre trasmissioni inizieranno dal lunedì mattina con le dirette. Il palinsesto come sempre sarà aggiornato questa sera. Ricordiamo anche magari che per contattarci e scriverci la posta del Wombat è postawombat@insiberia.net. Che ci scordiamo di dire? Ma secondo me niente, poi nel frattempo Conte ha fatto la sua diretta, cioè incurante del fatto che anche noi eravamo in diretta, cioè quindi non teme la nostra concorrenza, incredibile. Come ha potuto? Non la teme, la andremo a vedere noi in replica e lui in replica ascolterà la nostra diretta di oggi, va bene, per una volta lo possiamo fare, sì. Ah, ma se ci ascoltasse non si comporterebbe così, evidentemente non ci ascolta abbastanza. Penso anch'io, penso. Ora gli mando un messaggino, glielo dico, comunque. Ora lo faccio. Bravo, diglielo. Va bene, grazie a tutti per la partecipazione, l'ascolto. Io sono Mario, Pink insieme a me. Ci risentiamo la settimana prossima, nel frattempo con tutte le repliche e le trasmissioni del Wombato. A presto. Ciao. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore.